E poi sento dire Bersani cosa, quel che ha in testa Bersani lo sa solo Bersani, c'è nessuno che sa cosa ha in testa Bersani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai che non va la vita com'è, ragazzo mio. Ci son volpi di colesto, fanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Con tanti galli che cantano. Chi chi chi chi chi. Troppe galline rispondono. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Si stanno già scannando sull'IMU. Già si stanno scannando. Ricordiamo quello che ha detto Letta ieri sull'IMU, ricordiamo, sospensione IMU a giugno, che vuol dire tutto, non vuol dire che verrà tolta, non vuol dire cosa succederà dopo, non ha detto dove prende i soldi, sospensione dell'IMU a giugno. Poi bisogna superare l'attuale sistema di tassazione della prima casa, intanto con lo stop ai pagamenti di giugno per dare il tempo a governo e Parlamento di elaborare insieme e applicare rapidamente una riforma complessiva che dia ossigeno alle famiglie, soprattutto quelle meno abbienti. Tutte le papere piangono. Da quel momento in poi si è scatenata una ridda di dichiarazioni, voci, il PDL che sostiene che addirittura con Berlusconi, che se non ci sarà la restituzione dell'IMU del 2012 cadrà anche il governo Letta. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Sospensione a giugno, poi stop. Ha parlato di riforma. Ha detto stop. Ha parlato di riforma successivamente. Stop, non ha detto stop. Per quanto riguarda giugno, ma dopo si parla di una riforma, non di un'abolizione tout court. Beh, se ci sarà l'abolizione noi continueremo a sostenere il governo. Se non ci sarà l'abolizione non ci sarà il suo governo. E se i piccioni spariscono. Qui Brunetta parla solo di abolizione totale, cosa che il PD non vuole, tant'è che il ministro Del Rio dice una cosa, la Bindi ne dice un'altra, ma sentiamo ancora il PDL, Verdini, che bello, già il primo litigio, Verdini. La cosa più importante che chiede al governo Letta, irrinunciabile, è quello sull'IMU. Cioè se non passa quello cade il governo. Sì. C'è spuglio che aspetta là dove passerai, non andare finché il gallo che canta non ci casca mai. E il ministro Del Rio, renziano, dice sulla cancellazione dell'IMU stiamo lavorando. Ma come stiamo lavorando se quegli altri dicono che sicuramente sarà abolita, altrimenti cade il governo? Stiamo lavorando, Del Rio. La rata di giugno verrà in qualche modo spostata e prorogata. Ma deve essere cancellata l'IMU? Beh, questo è uno degli argomenti su cui lavoriamo. È chiaro che lavoriamo soprattutto sulla prima casa, lavoriamo soprattutto per le fasce meno abbienti, come ripeto, ha detto ieri il Presidente del Consiglio. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare. Siamo qui, la zanzara! Finalmente ritornano le liti all'interno del governo sull'IMU. Il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai. Oh, vogliamo ricordare Giuliano Ferrara contro la restituzione dell'IMU, meraviglioso. Se si azzarda a restituirmi l'IMU nel caso vinca le elezioni, glielo rimando infiocchettato. Perché è una balla, una bugia orrenda. Attenzione al matto! Massimo Fini e l'insurrezione popolare. Massimo Fini, giornalista, polemista, eccetera, eccetera. L'insurrezione popolare è auspicabile. Sparare a un singolo individuo, chiunque esso sia, è un atto criminale. Un'insurrezione popolare è un'altra cosa. Se uno crede che questa non è più una democrazia, ma una parodia di democrazia, io lo penso da tanti anni, se è un'altra cosa da quello che dice di essere, un'insurrezione popolare avrebbe la legittimità che hanno le insurrezioni popolari. Indovinate chi c'è in questo momento da Barbara D'Urso? Provate a indovinare, provate a indovinare chi c'è. Sono sempre stata molto attenta alle regole che lei mi ha chiesto e alle regole che il Movimento 5 Stelle hanno chiesto, no? Per sua, per bocca sua. Io ho degli esponenti politici, due in particolare, insomma, uno voglio il dire senatore Marino Mastrangeli, quello che adesso dice espulso sul web dal Movimento 5 Stelle che siamo come in Corea del Nord, la Corea del Nord. Con tanti galli che cantano. Troppe galline rispondono. Lei è contento di essere venuto qui, di esprimere questa sua posizione? Certo, cioè, ma guardi che a me secondo me dovrebbe essere la normalità, non siamo mica in Corea del Nord. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai. Serve un ripasso di nomi per qualche senatore. Il senatore del PDL D'Ambrosio, che non c'entra nulla con Loris D'Ambrosio, che fu consigliere di Napolitano, invece di ricordare il cognome del carabiniere, ferito nella sparatoria davanti a Palazzo Chigi, parla di Martina Colombari. Quando si è rivolto a Martina Colombari ringraziando le forze dell'ordine, a Martina Giangrande, ringraziando le forze dell'ordine e l'arma dei carabinieri, ha fatto riferimento ai giovani. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare. Siamo qui, 800 24 00 24, La Zanzara con Parenzo che è improvvisamente scomparso. Faremo i conti dopo, faremo i conti dopo. Adesso non mi va nemmeno di arrabbiarmi, caro professor Becchi, non mi va di arrabbiarmi. Professore, come sta? Bene, bene, tu come stai? Mi sembra bene. Sì, sono in forma, carico, carico abbastanza. Con Parenzo che è sparito, ma adesso lo sai. Allora spara tu, insomma. Sparo io a Parenzo, bravo, sì, dammi un consiglio, sparo. Guarda che sono stato da un certo punto... No, spara, no, solo io ti sparo, no, ho sempre bisogno di un altro per spararti, Paolo. Vabbè, bisogno della spalla, però io gli sparerei sul serio stavolta, gli sparerei sul serio, a te non ti è presa mai la cosa di sparare a qualcuno ogni tanto? No, no, così no, così violento, no, di mandarlo all'inferno o in qualche altro posto. C'è la rabbia così dentro che monta, no, quella rabbia dentro. Sì, vabbè, però insomma... Ma no, ma è chiaro, non con le armi, in senso figurato, no? No, magari la strozzare, così, una persona... Ecco, chi è che avresti strozzare? È mia moglie, qualche volta. Tua moglie la vorresti strozzare qualche volta? No, sto scherzando. Vabbè, ma sì, ma sono quelle cose che si pensano, no? Si pensano così nei momenti di follia e poi per fortuna ci fermiamo sempre, fermiamo sempre. E qualche volta no, come è successo l'altro giorno, insomma. Ecco, io voglio chiederti una cosa, ma hai sentito Fini che ha detto la rivolta armata contro il potere, in qualche caso secondo te è giustificata? Adesso sto parlando al di là del fatto singolo di quel giorno. Ma sai, ne abbiamo già parlato una volta, le rivoluzioni non sono sempre pranzi di gala, cioè l'elemento della violenza ci può essere, ma quando diventa una situazione esplosiva, insomma, cioè questo ci sono nella storia, abbiamo avuto esempi di questa natura. Ecco, ma secondo te questo governo PD-PDL potrebbe portare una situazione esplosiva? Ma è una situazione esplosiva, bisognerà vedere che cosa farà, è difficile dirlo adesso sui due piedi. Certo che un Presidente della Repubblica rieletto per 7 anni, 14 anni, insomma, probabilmente neanche in Venezuela dura così tanto. Insomma, voglio dire... Che vuoi dire? Che vuoi dire? È caduta la linea? Che ha fatto? Professore? Che è successo? Vabbè, Alessandro da Venezia, buonasera. È caduta la linea. Buonasera Cruciani, buonasera anche a Parenzo, se c'è, e a Becchi o chi... di chi ne fa le veci, insomma, perché... Allora, il discorso sulla sparatoria di Palazzo Chigi, volevo collegarmi a quanto aveva detto lei ieri, no, con tanto fervore, riguardo, solo per capire senza polemica, lo premetto subito. Lei disse che avrebbe fatto meglio spararsi. Sì, io ripeto, però non voglio tornare su questa polemica. Già ieri abbiamo discusso, litigato, eccetera, eccetera. Ho detto, c'è un paradosso, Alessandro, c'è un paradosso, che è questo: se uno pensa di fare un gesto disperato, se uno è disperato, io lo dico così come istintivamente, certo, dopo aver ascoltato le parole della figlia del poliziotto, ma perché non, certo, si è sparato invece di sparare i poliziotti? Certo. Punto. Ho detto, non che mi auspico, non che voglio. Siamo d'accordo, Cruciani, io credo che qui in trasmissione, e qui da dove la chiamo, nessuno, e tra i suoi ospiti, nessuno è d'accordo sul gesto che è stato compiuto. Sì. Siamo tutti d'accordo che è stato un gesto commesso. Un attimo solo, Alessandro, c'è di nuovo il professor Becchi. Professor, sì, Becchi, scusi, sì, un attimo. Allora, stavamo dicendo, presidente, sì, eletto per 14 anni, però questo secondo lei giustificherebbe una rivolta popolare contro... Ma no, no, ma tante cose messe insieme, insomma, fanno capire che la cosa sta diventando una situazione sempre difficile da gestire. Ora bisognerà vedere come si muoverà questo governo, questo non lo possiamo dire al momento, però già la scelta di Napolitano è una scelta che mette in evidenza la crisi, l'eccezionalità della situazione in cui ci troviamo. Sì, d'accordo, però in quali casi questo... è giustificata una rivolta armata contro il potere? Secondo lei, del modello della Tunisia, dell'Egitto, eccetera? Ma nel momento in cui non viene più rispettato l'ordine istituzionale esistente, per esempio non si fa più lavorare il Parlamento, già questa è una cosa grave. Io spero che ora il Parlamento si apra, è stato bloccato per 2 anni, noi siamo vissuti in 2 mesi di democrazia bloccata, di democrazia sospesa per via delle commissioni, insomma già questo non era un buon funzionamento di un sistema democratico. Comunque non è follia pensare che prima o poi qualcuno prenda le armi, secondo lei? No, la storia dimostra che la follia non lo è stata, perché insomma, oppure dimostra che della follia nella storia ce n'è sempre stata. Ecco. E ce n'è bisogno, certo, in alcuni casi? Ma no, io credo che in Italia abbiamo per fortuna una grande forza al momento, all'opposizione, il Movimento 5 Stelle, che finora ha dimostrato di essere molto legata al rispetto della legalità e quindi alle regole democratiche, ma semmai sono gli altri che non le hanno rispettate. Finora è servito questo movimento proprio a bloccare forme estreme che ci potrebbero Qualcuno dice al contrario che le parole di Grillo possono attizzare qualcuno e hanno addirittura portato, c'è, cioè, chi lo dice esplicitamente, mandante morale di Preiti che è arrivato davanti al Parlamento perché sente ogni giorno dire i politici sono delinquenti, vanno messi in galera. Ma questo è quello che gli hanno fatto dire proprio questo, però non... Cioè? In che senso gli hanno fatto dire questo? Nel senso che è proprio l'utilizzo che si vuole fare di quel caso, è per gettare... Cioè conviene a qualcuno che qualcuno abbia sparato davanti a Palazzo Chigi? Ma certamente non è neanche il primo caso. Il primo caso doveva essere quella sera quando Beppe Grillo doveva parlare a Roma e lui non c'è andato. E lì la provocazione sarebbe stata messa in atto con atti di violenza. È per quello che Beppe Grillo non è andato a parlare lì, questo è molto chiaro. Quello sarebbe stato il primo momento. Lui l'ha capito e adesso ne vedremo delle belle. Ma chi è che mette? Dietro c'è qualcuno che organizza queste cose? Io non lo voglio dire, non credo. No, quello che pensa mi deve dire. Penso che sia un dato di fatto oggettivo, non tanto il fatto... Cioè, oggettivo che cosa? Che c'è qua dietro qualcuno che vuole addossare la responsabilità di atti di violenza a Grillo? No, è oggettivo che vengano utilizzati casi come questi per indicare la violenza del Movimento 5 Stelle, dato che al momento invece il Movimento è stato del tutto estraneo a qualsiasi azione violenta. Ma chi mette in atto queste provocazioni, secondo lei? I servizi segreti? No, io penso è nell'interesse del governo che ora si è istituito, non lo so come, però è nell'interesse del governo che non si dia spazio a questa opposizione, che questa opposizione venga relegata. Ho capito, ma se lei dice nell'interesse del governo c'è qualcuno che agisce però o no, perché altrimenti... Io non lo so se c'è qualcuno che agisce. Cioè Preiti l'ha mandato qualcuno, secondo lei, non è arrivato da solo lì? Ma chi lo sa, questo al momento è un po' difficile pensare che sia arrivato lì da solo con una pistola che abbia sparato così, non lo so, dovranno essere... No, ma mi dica la sua opinione, cioè secondo lei è un agente provocatore di qualcuno, cioè è stato mandato per provocare, cioè per rafforzare il governo? Non lo potrei escludere, ecco, non escludere che si possa anche trattare di una provocazione di questo tipo, Io credo che le indagini devono lavorare in tutte le direzioni. In ogni caso, che cosa ha provocato, secondo lei, questa cosa? Ha provocato un rafforzamento del governo? Beh, ma mi scusi, guardi che maggioranza ha avuto la maggioranza totale, cioè i bersaniani, gli indecisi del PD, eccetera, un'azione del genere hanno votato compatti la fiducia. Insomma, mi sembra che poi subito immediatamente la colpa di queste cose che stanno succedendo è del Movimento 5 Stelle, due piccioni con una fava. Insomma, mi sembra talmente evidente. Però manca la risposta: chi è che orchestra queste cose? C'è un grande vecchio, secondo lei, i servizi, qualcuno? Mi dia una risposta. C'è il potere visibile e c'è il potere invisibile. Questo potere invisibile da chi è rappresentato, se fosse rappresentato da qualcuno non sarebbe visibile. È il potere invisibile. Noi abbiamo non soltanto un potere visibile, ma anche un potere invisibile. Torno tra poco con il professor Paolo Becchi, non dico intellettuale dei 5 Stelle perché so che gli dà fastidio, ma insomma grande supporter elettore dei 5 Stelle, personaggio molto ascoltato in certi ambienti traffico. La Zanzara. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, why don't you go home? Non mi molesti moschito. Siamo diventati la seconda, la prima forza politica del paese, è fantastico! Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, con il professor Paolo Becchi. Eccoci qui. Senta, l'espulsione Giuseppe, di Mastro... Giuseppe, dimmi. Lasciami dire una cosa importante, perché secondo me chi ci ascolta è importante. Dopo il discorso di Grillo, siamo la prima forza, eccetera. Ma quello era vecchio, Sì, ma stai a sentire, il problema è questo. Effettivamente questa prima forza, poi non sono stati 8 milioni di voti, ma non si è concretizzata in una maggioranza di governo. Il Movimento 5 Stelle andrà all'opposizione, questo è chiaro. Ma ci sono stati degli errori? Stai a sentire. Dimmi. No, stai a sentire. Nel sistema democratico, a meno che non vogliamo arrivare a quella che già Tocqueville chiamava la tirannia della maggioranza, devono essere garantite determinate cose all'opposizione. Vabbè, ma quello è sempre successo in Italia. Ma adesso non succederà, perché se le due commissioni permanenti che di garanzia vanno del movimento, vanno di solito all'opposizione, non vengono date al Movimento 5 Stelle, ma cioè la parli del Copasir e della RAI, questo è di nuovo un grave attacco alla democrazia. Per questo sarebbe una specie di golpe, secondo te? Questo sarebbe quella che Tocqueville ha definito la tirannia della maggioranza. Tu lo definiresti un golpe? Io sì, tra virgolette, golpe, come del resto le elezioni che del presidente, aveva ragione Beppe Grillo quando ha parlato di golpetto, colpo strisciante. Ma no, colpo strisciante, dai, su professore, ma lei è la maggioranza del Parlamento che ha deciso la rielezione di un presidente, un fatto eccezionale. Ma come è stato rieletto? E tenendo presente che se tu ti vai a vedere bene quello che i lavori preparativi della Costituzione, nessuno aveva pensato dei padri costituenti d'accordo. Senti, adesso no, ho capito. La questione di Mastrangeli, è stato giusto cacciarlo oppure no? Ma guardi, io avevo proposto molto semplicemente di tagliargli la lingua, magari utilizzando un po' di narcosi, ma mi hanno detto che questi sistemi talebani non funzionano in democrazia e non gliel'hanno voluto tagliare. Cosa vuoi che ti dica? Pazienza. Lui continua a parlare, fa grandi danni, ma adesso farà danni soltanto personali, penso. O cioè personali, resterà nel Parlamento, ma... Magari prenderà anche lo stipendio pieno, che ne sai? Ma secondo te un motivo è quello, perché fa casino, anche perché si vuole un po' affrancare? Non entro sul caso privato, direi è abbastanza penoso, però era giusto giungere a una conclusione così. Se uno invece di fare il parlamentare va soltanto nei talk show televisivi, insomma, però lui dice che non c'è una proibizione assoluta, lui non parla mai con qualcun altro, cioè con altri politici. Il problema è che lui in Parlamento non fa un tubo, e invece sono stati messi lì dal movimento per farli lavorare, non per non fare un tubo, capisci? Crimi e Lombardi, troppe gaffe, adesso saranno cambiati, ma tu avresti fatto una scelta diversa all'inizio? Ma sai, quante gaffe avrei fatto io, sai, non è mica facile. Perché non ti candidi? C'è bisogno di persone un po' più, dico, strutturate, un po' di persone che abbiano una certa... ma dicono che sono un po' violento, sono troppo rivoluzionario, capisci? Dicono, e allora non vorrei creare un danno al movimento. Senti, ma il fatto che sia andato subito dalla Merkel è un segnale, Letta? Beh, ovviamente, scusami, non hai letto il discorso. Il discorso è fumo nero. Io me lo sono letto attentamente. L'unica frase fondamentale di tutto il discorso è questo. Le premesse macroeconomiche sono quello dell'Europa e della Banca Centrale Europea. Sì. Si può dire che tutto il programma si basa su queste due. Sì, quello è vero, quello è vero. E quindi è abbastanza chiaro, no? Cioè, siamo governati ancora dalla Merkel, secondo te? Beh, certamente. Dalla Merkel insieme alle banche e al banchiere che abbiamo messo adesso come ministro dell'economia. Beh, insomma, sai, se poi qualcheduno tra qualche mese... Sto scherzando, prende i fucili, cioè, poi non lamentiamoci, perché insomma, cioè, le banche di guerra ne hanno già fatti abbastanza. Adesso abbiamo messo al ministro dell'economia un altro banchiere. Non è cioè, che tu dici messo... il fatto di mettere un altro banchiere, insomma, la gente è esasperata se tra qualche mese in braccio il fucile, non è che poi uno dice. Che vuoi che ti dica? Insomma, cioè, la situazione se non migliora, peggiora, e non so quanto la gente possa ancora resistere. Quanto il Movimento 5 Stelle possa ancora frenare questa violenza che è nella natura delle cose. Ma dunque la differenza tra Letta e Monti non esiste, è inesistente, uguale, identico. Ma esattamente la prosecuzione della stessa politica di precedente, solo che adesso viene camuffata da una lieve crescita che non si sa bene neanche che cosa sia, ecco, tutto lì. Ma non c'è un vero. Poi bisogna vedere dove trovano i soldi per togliere l'IMU. Ma eccetera. No, ma vabbè, sarai contento che ti tolgono l'IMU, no, professore? Ma io non ho casa, quindi. Come non hai casa? Io non me la posso mica permettere la casa, io sono in affitto. Sì. Non è che tutti possano permettere. Ma i grillini sono tutti poveracci, solo l'unico milionario è Grillo. Non lo so se ci siano altri milionari, io non lo sono, però non mi lamento, insomma, rispetto a come sta la gente, in Italia, io mi sento un privilegiato, però insomma, non a tal punto da potermi permettere una casa. Nel web si legge moltissimo tra le reazioni all'attentato, no, di Palazzo Chigi. Sì. Beh, insomma, sì. Ma perché colpire un poliziotto? Era meglio colpire un politico. Questo è una cosa. Scusami, dimmi. Che è successo? Devi salire sul treno, che devi fare? Sì, sali sul treno. Ciao, ti abbraccio. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire. Eccoci, Maurizio da Roma. Beh, strozzare le persone, strozzare. Buonasera, in questo momento vorrei trovare qualcuno da strozzare, avete capito chi, no? Da strozzare, prendere la gola. Maurizio, lei l'ha capito chi? Prendere la gola e strozzare, sì. Quello stronzo, diciamolo subito, quello stronzo. Maurizio, dica. Bravo il professor Becchi, mi è piaciuto molto. Solo che dimentica una cosa, che forse senza il 5 Stelle sarebbe molta più violenza. Io vedo 5 Stelle come un ammortizzatore non sociale ma politico. Se quegli 8 milioni di voti probabilmente sarebbero stati 8 milioni di incazzati. Vabbè, Maurizio, andiamo al sodo, però che ho poco tempo, su, perché c'è il giornale radio, dica. C'è poco tempo? Sì. No, io però, guardi, lei è molto onesto. Lei mi deve chiarire una cosa. Come fa un pensatoio come Vedrò a piazzare 5 ministri e un primo ministro? Vabbè, ma lasci perdere, ma non lo conosce nessuno. No, non è che... Ma noi stiamo parlando di una platea, ma io non sono iscritto per nulla. Questa è una buffonata pubblicata dai giornali. Io non sono iscritto a nulla, non ho la tessera manco di casa mia. Se il sito c'è il suo nome, ma il mio nome, guardi, io non mi vergognerei per niente, Maurizio, ad appartenere alla cosiddetta lobby di Enrico Letta. Il problema è che, primo, secondo me non esiste una lobby. Secondo, non sono iscritto a nulla perché non ci si deve iscrivere. Siamo andati per 2 anni di seguito, e ripeto, non mi vergognerei. Siamo andati per 2 anni di seguito a fare una trasmissione radiofonica, punto e basta. Cioè, non c'è nessuna lobby, esattamente. E allora perché loro sul loro sito mettono, ma no, mettono i partecipanti? Dunque io non appartengo a nessuna lobby, io non ho nessuna tessera, non ho alcuna tessera. E vabbè, d'accordo. Ma non lo so, avranno preso i partecipanti, perché quando uno partecipa, io scusi, se non ma qual è il problema? Poi anche fosse così, qual è il problema? No, il problema è parecchia gente, per onestà, siccome lei è un comunicatore, è un giornalista. Ma io non appartengo a nessun tipo di lobby. La sua credibilità, cioè raccontare che prima. Vabbè, spiegheremo dopo. Abbiamo il giornale radio 800 24 00 24. La zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Ruggisce tutta la notte. Dorme in un tombino. Arrendetevi! C'è l'agnello nel letto che mi graffia. cambia tutto. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Ma che mondo è questo ormai, in che cosa sei riuscito a trasformarlo se non vuoi mettermi intorno? Sentite una senatrice dei 5 Stelle oggi contro Berlusconi in Parlamento, si chiama Lezzi, piduista di Gelli, rivolto a Berlusconi. Vedremo alla prova dei fatti se sarà mantenuta la promessa elettorale dell'ineleggibilità secondo la legge del 57 del senatore Berlusconi, già detentore della tessera 1816 della loggia P2 fondata da Licio Gelli. Sempre questa Lezzi, molto battagliera. I cittadini sono già in fila ad Arcore per la restituzione dell'IMU, perché effettivamente Berlusconi promise la restituzione dell'IMU, anzi insiste adesso, bisogna restituire, bisogna che questo governo, il governo Letta, restituisca anche l'IMU, altrimenti staccare la spina. Non succederà ovviamente, sono solo chiacchiere. Berlusconi aveva infatti promesso la restituzione dell'IMU. Nel caso non fosse stato possibile, aveva giurato in diretta TV che ci avrebbe messo lui stesso i soldi. Possono i cittadini mettersi già in fila pacificamente davanti ad Arcore o in via del Plebiscito? Chiediamo a Berlusconi delucidazioni in merito. Intorno c'è un mondo che ha già tutto e di te non... Ben ritrovato David Parenzo! Buonasera! Eccomi. Buonasera. Bravo, caro! Guarda. Applausi, facciamo l'applauso subito, applausi, facciamo scattare gli applausi subito. Eccoci qui, ti abbracciamo fortissimo. Dove eri finito? Ero qui con Gatto Silvestro e Titti, vero? Ah, devo fare silenzio adesso? Ah, silenzio, bene, silenzio, scusami. Silenzio. Vai in terrazzo, anche se fa meno 5. Sì, infatti vado in terrazzo, mia figlia che mi dice fai silenzio perché c'è Titti e il Gatto Silvestro e non mi interessa niente di sentire quei quattro imbecilli. Quei chi, co, eccetera. Senti, ma invece... non faccio il cretino. Bernini. Devo anche lei, donna assunta, perché ho smesso di cercare il suo... Ma il non suo ci sono busto. Notizie aggiornate sul busto? No, ho smesso di cercarlo, non è stato più segnalato. Ci danno una segnalazione falsa, perché me l'hanno segnalato, sì. in Marocco. Ma come in Marocco? Nella casa del re del Marocco, che se l'è preso. E come mai? Venduto al mercato nero di Villa Portese, di Porta Portese, e l'hanno ritrovato lì in Marocco, una segnalazione che mi è arrivata via Facebook. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Beh, si calmi però, io provo, l'aiuto da mesi. Da è mesi proprio rincoglionito forte lei, eh. Intanto spunta una foto, aspetta. Potete andare su internet a consultarla, con Preiti che spara, in cui si vede che spara sostanzialmente a bruciapelo ai carabinieri, altro che voleva colpire i politici. Ma quali politici, ancora con questa stronzata? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano per il 1° maggio. È un dovere morale pensare al lavoro che non c'è. Il governo è nato per affrontare soprattutto questa emergenza. Letta a colloquio con la Merkel. Lotta alla disoccupazione, ma non c'è risanamento senza crescita. Il governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ma sull'IMU è già scontro, il governo precisa, per ora è solo sospeso il pagamento di giugno. Berlusconi, se non viene abolita non ci stiamo. CGIL, CISL e UIL contrari all'abolizione totale dell'IMU. Per i sindacati via l'imposta solo a chi ha una sola casa, per non sottrarre risorse necessarie al lavoro e sociale. Ed è sempre più allarme, disoccupazione. L'Istat a marzo vola tra i giovani, in un mese 70.000 donne hanno perso il lavoro. A giugno sindacati in piazza. Non aveva complici né mandanti, Preiti, l'uomo che ha aperto il fuoco a Palazzo Chigi. Era lì per uccidere, dicono i PM, ammirato ai carabinieri. Ancora grave il brigadiere Giangrande. E per Obama ci sono prove dell'uso di armi chimiche in Siria, un elemento che cambierebbe lo scenario. Da 3 settimane persi i contatti con l'inviato della stampa, Domenico Quirico. Tutto il Parlamento, caro Parenzo, in subbuglio e in rivolta per le parole pronunciate da Marione Borghezio. Ti credo. Buona Padania, perché con questo governo viene veramente voglia a chiunque di fuggire dall'Italia. Col governo del bonga bonga, Eh beh, con un governo di questo genere, abbiate pazienza, questa non si è ancora insediata la casalinga di Modena e dice che già deve cambiare le leggi sulla cittadinanza, una tradizione millenaria fondata sullo ius sanguine. Per dare la cittadinanza a tutti purché siano nati in Italia, il che costituisce un tantam per tutte le tribù del mondo. Dice: venite in Italia, perché quelli sono così coglioni che appena uno fa un figlio quello diventa cittadino italiano, e quindi poi si ricongiungono, hanno pensioni, hanno diritto alla casa popolare. Cioè, col cazzo in Padania se gli diamo la casa popolare, col cazzo. Sempre moderato, sempre moderato. Il linguaggio sobrio, la casalinga, le cose, che una cosa, io capisco il motto di indignazione, dai, la roba era su tutti i giornali. Ma come mai sei diventato così moderato? Non ti diverte nemmeno più, Marione Borghezio? Sono finite quelle serate in cui mi dicevi: senti, mi devo ricaricare, prendiamo il computer, prendiamo l'iPad, e mettevi Borghezio. Confessalo, facevi così. Come mai adesso? Che cosa è successo? Una mutazione genetica, forse? Prendevi l'iPad e ti mettevi con la cuffietta, anzi no, senza cuffiette, me lo facevi ascoltare. Mi voglio caricare. Sentiamo Marione Borghezio, e sentivi tutto Borghezio. E poi lo chiamavi pure crasse risate. Confessalo, tu, uomo di sinistra, politicamente corretto, confessa. Ma è vero, a me ha sempre divertito moltissimo. No. Dopodiché, mi diverti, e ancora oggi mi diverto a riascoltare quelle cose che dice. Dopodiché, se uno ci riflette 30 secondi, quello che ha detto ieri è una cosa agghiacciante. Cioè, per la prima volta abbiamo una straordinaria donna di colore, italiana. Ma se ti ministro, diverti come un matto ad ascoltarlo, ti diverti ma come sì, un matto. Perché esistono persone così, mi diverto perché dico purtroppo esistono ancora delle persone così. Sentiamo ancora. Su, dai, che è successo? Perché sentiamo, la cittadinanza viene data un po' alla cazzo, e parliamoci chiaro. Quindi questo, che uno sia diventato cittadino italiano non è che sia il timbro sulla sua, poi magari in questo caso si tratta di una bravissima persona, devo dire che l'espressione è simpatica, mi sembra una brava casalinga, ecco, la vedrei molto bene come assistente sociale di un comune di 500 abitanti, non ministro. Bene, siamo qui, tu ti sei perso prima, caro Parenzo, il mitico professor Becchi, caro Parenzo, ne ha dette di tutti i colori, ne ha dette di tutti i colori, poi ti faccio risentire. Franca da Bologna innanzitutto, Franca. Becchi ormai è diventato intervistato da chiunque ormai, anche il Corriere intervista Becchi. Vedere tutte le fantasie del professore, perché io quando vado a letto mi metto la cuffia e vi ascolto. Sì. E una sera. Sì, ma lei si è messa in viva voce, signora, che ha fatto? È in viva voce? No, io ho il telefonino, però forse. No, va bene, dica. Allora, perché quella sera, 5-6 sere fa, ha telefonato proprio quel signore che ha sparato. Ma lei è sicura, signora? Detto che aveva la pistola. Ma no, e lei ma non disse: è. No, non vorrà mica andare a sparare. E lui disse: sì, poi vedrete, poi ve lo farò sentire. Cioè, ha proprio, infatti, mi ha impressionato quando. Ma non mi sembra, signora, da dove ha chiamato questo qua? No, 5-6 giorni fa, proprio da giù, e ha detto che era disoccupato. Poi se non l'ascolto, mi ha fatto molta impressione, perché quando hanno sparato, l'ho proprio collegato con quello che aveva chiamato, perché non era esaltato come tanti, era proprio deciso, e ha detto che l'11 poi vedrete, io ho una pistola, ha detto. E lei gli disse: ma vabbè, fate qualcos'altro con la pistola, non andrà a sparare. Già per dire. No, ma lei si sbaglia, poi, signora, lei si riferisce ad un episodio. Sono registrate le telefonate. Sì, ma lei si riferisce ad un episodio vecchio di qualche mese fa in cui c'è. No. Sarà stato io, perché c'è i giorni di festa, penso 6-7 giorni fa, perché le spiego. Lei ascolta così, ma io che ho la cuffia e sono a letto. Ma guardi, che io mi ricordo bene le telefonate che arrivano, almeno quelle più forti, non mi sembra di avere. Ha detto che aveva la pistola e ha detto: bisogna sparare ai parlamentari. Lei le ha detto: sì, vabbè, cosa vuole andare a sparare a Montecitorio? E lui ha detto: sì. E poi lei insisteva a dire: ma perché lei collega questa telefonata al signor Preti? Perché mi è rimasta impressa. mi è rimasta proprio impressa questo signore, perché non era il solito. Ma ci possono essere tante persone che dicono così, perché deve essere per no, forza? No, glielo risento, tanti che dicono ma siamo tutti per ho per capito, per... ma non ha mica sentito no. parlare lei, dunque Preiti, non ha parlato pubblicamente, non si sente la sua voce, come fa a collegarla? No, la voce no, è come lui lo disse quella sera che mi è rimasta Vabbè. Impressa la cosa. Franca, controllerò, Serafino no, dalla Venna. Provi ad ascoltare all'indietro. D'accordo, perché... grazie, Serafino dalla Venna, buonasera. Buonasera. Vada. Le volevo dire che prosegue la tabella di marcia di Berlusconi in modo regolare per diventare Presidente della Repubblica. Sì. E entro tre mesi, prima che si cambi la legge, cadrà il governo, Napolitano si dimette e avanti così. Grazie a Grillo e a Bersani. Ah, lei dice perché non si sono messi d'accordo, eccetera, eccetera. Caro Serafino, la marcia verso Berlusconi, Presidente della Repubblica, innanzitutto immagino che per lei sia un qualcosa di immaginabile, di nefasto, di sconvolgente, no? Beh, sì, è un devastatore. È un devastatore. Ma devono succedere ancora tante cose, Serafino, prima di arrivare a quello che lei prospetta come una sorta di incubo. Devono succedere tante cose. La politica è fatta di inciampi, di casi, di piccoli episodi. Cioè... Allora, guardi. Non è un incubo, se mi può ascoltare due secondi le riferisco questa cosa storica. Sì, mi dica. Nella trasmissione Zappi del 93, quando sì. 93-94, io riuscì a prendere la linea il giorno in cui Berlusconi vinse le prime elezioni. E allora? E dissi, a questo punto col potere che gli si è dato, conviene farlo re d'Italia, non una monarchia ereditaria, ma conviene farlo re d'Italia, perché altrimenti lui otterrà gli stessi risultati, quel risultato di diventare il padrone per tutta la vita, ma devastando le istituzioni, che è quello che sta succedendo. Altre volte poi ho telefonato a Forbici, ogni 5-6 anni, Vabbè. Conviene farlo re d'Italia. Ecco, va bene Serafino, grazie. Michele da Milano, buonasera. Michele. Buonasera. Vada. Ho chiamato perché ieri sera ho sentito una signora siciliana che diceva che tutto un macello, muoiono tutti di fame, una cosa e quasi giustificava. Sì. Io dico solo questo, lo scorso fine settimana Ponte Lungo del 25 aprile Milano era semivuota, sembrava il 15 di agosto. Un amico che è stato in Sicilia a fare il Ponte Lungo mi ha mandato una bella foto di una spiaggia di Taormina piena con balloni aperti. Scusi, Michele, non voglio assolutamente negare che la situazione è difficile, è difficilissima, lo vediamo tutti. No, ma infatti tutti la gente che muore di fame, l'espressione è ridicola, dopodiché non è che si può misurare la crisi, Parenzo, la crisi sulla base del fatto che i treni sono pieni il 25 e 26. No, però perché... c'è un quello po', che diceva Berlusconi, i treni sono pieni, è la stessa sciocchezza. Sì, però chi male, parla? Tutto un macello. E tutti rubano, e tutti mangiano, e tutti quelli che si lamentano sembra che non partecipano assolutamente al contesto e alla vita di tutti. Va bene, devo dare la borsa, ci sentiamo tra un attimo. La Zanzara. Anche il tuo aiutante bolscevico comunista di merda, Sciacquino Zerbino? Sì. Forse ha dimenticato qualche aggettivo, però sì, confermo, pagato dalla Confindustria. Certo. Mettiamo Cerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Delirio a 5 stelle, Cecconi, deputato. Se avesse sparato ad un auto blu avrei capito il senso. Sparare a un carabiniere è una cosa diversa che sparare a un politico. Capito? Sì, questo l'aveva già detto su Facebook ieri, se non sbaglio. Credo. Ieri, quello della Lega. Sì, no, come quello della Lega? Che c'entra la Lega? Cecconi 5 Stelle, sveglia! Ah, Cecconi di 5 Stelle, sì, sveglia, sì, è vero, sveglia. Cecconi di 5 Stelle. Vabbè, uguale, ragione uguale. Gad Lerner subito contro di noi, Chi è il peggiore, Borghezio o quelli che lo intervistano? Non so davvero chi sia il peggiore fra Borghezio e i suoi pigri aizzatori telefonici. Beh, pigri no. No, beh, lasciamo perdere, ormai è un'ossessione. Tra la steppa del Mar Nero c'è il vivaio di Taras Bulba, c'è la statua del cavallo di Zabov. Sì. c'è l'impronta della scarpa. Intervistare Borghezio equivale a rimestare nell'ovvio con pigrizia e corrività. Bravi, che bello scoop. Non so davvero chi sia il peggiore fra Borghezio e i suoi pigri aizzatori telefonici. La differenza, caro Lerner, aggiungo, per chi sia interessato a questo argomento, sicuramente non le migliaia di tassisti collegati, anche i camionisti, eccetera, eccetera, persone in fila su raccordo anulare. La differenza è che tu, Borghezio, lo intervistavi come una sorta di illuminato, come un'intellettuale espressione di un mondo. Lo facevi parlare seriamente di non so che cosa, della Padania o di altro, o di deliri nibelungici, eccetera, eccetera. La differenza è questa. Che tengono lontane. Preso da Radio Padania, Sammy Varin, uno dei conduttori. Non c'era solo con noi, senti, no, anche con Un Giorno da Pecora, che l'ha intervistato il giorno stesso, peraltro, non il giorno prima, la mattina. Loro all'ora di pranzo, noi la sera. Sì, non c'era solo con noi, però c'era con noi. Adesso a me che mi frega degli altri. Sammy Varin, sentite, conduttore di Radio Padania. Non siamo solo noi a intervistare. Ma chi se ne frega? Ma adesso ti stai assorbendo. Io ripeto, Parenzo, tu mettevi il computer, l'iPad e ascoltavi compiaciuto, ridendo, i discorsi di Borghezio. La vogliamo dire tutto? No, io con te, ma certo, io accanto a te. E allora non ti devi. Ma non devi difenderti da nulla, non devi difenderti da niente. Devi passare a, quando qualcuno ti attacca, devi passare al contrattacco. Non metterti là, oddio, che è successo, mettersi a pecorina, all'attacco sempre. La difesa dell'intervista. Vabbè, fammi sentire il conduttore di Radio Padania. Fammi sentire il conduttore di Radio Padania, Sammy Varin, su quello che ha preso la mira, eccetera. E ci chiediamo, certo, cosa mai possa centrare un carabiniere. Cioè, se tu vai completamente fuori di testa, decidi di ammazzare un ministro o un politico, cerca almeno di prendere la mira giusta, aspetta che passino di lì, visto che sono anche passati, naturalmente prendo le distanze da tutto ciò che sto dicendo, però, capito, per assurdo. Adesso tu direi lo stesso ragionamento che ho fatto io, per assurdo era meglio che si ammazzasse piuttosto di sparare. Stavo per dirlo, perché se uno, vedi la differenza, brutto ipocrita qual è? Che se uno mette davanti la parolina per assurdo, il mio già può dire. Sì, ma io non ho detto per assurdo, no, era meglio, no, che sparasse un politico, hai detto per non assurdo, ho detto che per assurdo era meglio che tu hai detto che si doveva sparare lui, sì. E poi hai detto per assurdo. Allora si può giustificare qualsiasi aberrazione mettendo davanti due parole: per assurdo. Non è così, non è così, perché dire queste cose sono delle bestialità. Bellissimo, Sammy Varin, quello della Sammy Padania, Varin. Bestia tu, bestia quello della Padania, che poi si giustifica dicendo no, ma ovviamente noi lo diciamo. Quello però per assurdo. Io facevo un ragionamento di cui sono abbastanza convinto. No, lui non invece è un ragionamento. Non va bene, fammi sentire quest'altro, fammi sentire quest'altro Sammy Varin, sempre lui, Questo signore calabrese che poi viveva ad Alessandria, che non lo so come mai ad Alessandria, un calabrese che viveva ad Alessandria, non è mai successa questa cosa. Dici, ma allora era pazzo o non era pazzo? Era intelligente o non era intelligente in quel momento? Poteva aspettare 5 minuti e insomma gliene passavano davanti di ministri che stavano per essere nominati tali? Sì, c'è la voglia rossa e blu di Gorbazio. Ho audio recuperati grazie al meraviglioso blog di Daniele Sensi, che monitora Radio Padania. Luciana dalla provincia di Padova, 800 24 00 24. Tra poco un grande ospite, un ospite a sorpresa. Luciana, provincia di Padova, dica. Sono qui. Vai. Mi senti? Sì. Allora, presto, veloce, che così facciamo presto e tante belle persone. Ma poi non ho capito, perché, ma che cazzo vuole Lerner? Perché continua a interessarsi di noi? Io questo mi domando, Parenzo, allora, scusa. Lui fa il giornalista e fa il commento. Che cazzo vuole? Cioè, non, qual è il problema? Ragione. Ma qual è il suo problema? Non come ho capito, qual è il suo problema? Ma con me? Sì. No, lei. Tutti noi parliamo e commentiamo le cose che sì, fanno. Sì, d'accordo, ma che vuole normale. Questo insistere, cioè, mettendoci sullo stesso livello? A parte che io non mi vergogno per niente di essere messo a livello di Borghezio, non mi interessano, due piani diversi, per cui già il paragone è assurdo. Ma qual è il punto? Beh, che facciamo uscire fuori quello che davvero Borghezio pensa? Cioè, non lo facciamo esprimere sui massimi sistemi come faceva lui in tutte le trasmissioni che ha fatto, che io non giudico per niente. Tra l'altro penso pure che sia un bravissimo giornalista, per cui non ho mai detto nulla contro Lerner in vita mia, mai una parola. Ma ognuno fa le trasmissioni che vuole, su questo non c'è un po' di ma dubbio. Cosa vuole? Insiste a darci degli aizzatori, a metterci sullo stesso piano. Ma dai, ma sì, ma sì, certo che è legittima. Tutto è legittimo. Come è legittima. Ma è un'ossessione, è diventata un'ossessione. è una sessione. Lui a questo punto di vista dice è vergognoso. Non so davvero chi sia il peggiore fra Borghezio sui picchi realizzatori telefonici. Sì, sono peggio di Borghezio. Ecco, lo dico anch'io. Sono peggio di Borghezio. Allora? Sono peggio di Borghezio. Sono peggio di Borghezio. Ti vuoi ammazzare? Sono peggio di Borghezio. Sono qui. Luciana. Sì, lo ammetto. Sono così e contento. Sono peggio di Borghezio. Luciana, provincia di Padova. Hai ragione. Ho ragione in che senso? Non essere qui peggio di Borghezio. Anzi, meglio di Borghezio. Non sei seduta sul divano, amore. Allora, mai come in questo momento c'è bisogno di esprimere le proprie idee, le proprie cose, quello che uno pensa. Guai se no. Poi sono molto d'accordo, anzi sono d'accordo su tutto quello che ha detto il professor Becchi prima. Perché? Perché su che cosa è d'accordo in particolare, cara signora Luciana? Su tutto quello che ha detto il potere. È il potere occulto e che qualcuno ha mandato questo qui a sparare, lo sparatore. Sono d'accordissimo, perché... Cioè che qualcuno ha mandato quello a sparare? Sensazione, è una sensazione molto... così io sono abbastanza che ci azzecco. Cioè c'è un grande vecchio dietro, ecco Parenzo, impara, il professor Becchi prima ha detto che dietro è tutto... Dietro c'è sicuramente qualcosa di preordinato, eccetera, eccetera. Ma poi certo, ha pronunciato, come tutto... Cioè per rafforzare il governo... È troppo sordinato tutto quello che sta succedendo, però capisci? E quindi non è una cosa così organizzata. Va bene, tutto grazie il tempo Luciana. Che Bersani ha perso in questi due mesi, sì, sì, gliel'hanno fatto perdere. Mi senti? Perché? Gliel'hanno fatto perdere, hanno fatto perdere. Ma chi gliel'ha fatto perdere? Chi? Che cosa sono queste dietrologie? Cosa sono queste dietrologie? Ha guadagnato tempo e hanno avuto due mesi di tempo per organizzare tutta sta roba qua. Certo che è così. E poi Massimo da Chieti, un attimo, di Mastrangeli che andava e curato, perché quando una persona entra a far parte di un gruppo qualsiasi esso sia, un'associazione, un ente, un'aggregazione, qualsiasi cosa, accetta le regole che si sono dati loro, non regole nazionali o internazionali. Lei sa, Luciana, che intorno alle regole, partecipare o no a un talk show, come partecipare, c'è una lunga discussione tecnico-giuridica, il che sembra assurdo, ma è la realtà, interna ai 5 Stelle. Secondo Mastrangeli, in realtà è solo proibito interloquire, confrontarsi con qualcuno. Secondo invece i 5 Stelle, lui non ha rispettato gli ordini di scuderia. Ah, perché la D'Urso non fa parte di non dirige il talk show. No, manca, d'accordo. Facciamoci prendere in giro, Luciana, dai. Lo vuole sapere qual è la mia idea? La mia idea è che se lui fosse andato, che ne so, a Omnibus, se lui fosse andato a in un'altra trasmissione un po' più sofisticata, non sarebbe successo nulla. Un giorno sì, era in televisione questo qui. Ma quello avesse detto delle cose interessanti riguardo al partito. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Sembrava che avesse anche qualche problema interlocutorio. Ma quello è un altro discorso, Luciana. La mia idea è questa: siccome è andato dalla D'Urso, allora è stato espulso. Andare dalla D'Urso, partecipare a un talk show, diciamo, che poi in cui la differenza tra l'informazione e l'intrattenimento è tutta da vedere, insomma, questo è per alcuni grillini un fatto molto grave. Non bisogna andare dalla D'Urso. Questa è l'unica spiegazione. Poi, ovviamente, sulla regola si può discutere all'infinito. Ma è con noi, caro Parenzo, una persona a cui abbiamo fatto tremare i polsi nelle ultime settimane. Nelle ultime settimane, caro Parenzo. Fino a pochi giorni fa era portavoce del Presidente della Repubblica, di quello che qualcuno chiama Re Giorgio, Pasquale Cascella, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Come sta, Cascella? Un po' faticato, perché sono in campagna elettorale, quindi abbiamo cambiato mestiere. Lo so, da quanti giorni esattamente, Cascella? La manifestazione di apertura c'è stata questa domenica, poi ovviamente ci sono stati un po' di preliminari. Ma quando è che lei ha staccato la spina dal Quirinale, diciamo? Nel momento in cui il Presidente della Repubblica ha giurato e ha conferito l'incarico all'onorevole Letta. Sì, da quel momento là. Lei è candidato sindaco a Barletta con una lista civica che si chiama Insieme per Barletta, che è sostenuta anche dal Partito Democratico. Senta, anche dal Partito Democratico, ma anche da Scelta Civica, ma anche da... dal PDL, no? Sennò si rifaceva il governo Letta, anche no? Anche dalla... c'è una novità. Cioè? FEL e altri raggruppamenti di sinistra si sono messi insieme per sostenere la mia candidatura, quindi c'è la novità, diciamo, da segnalare è il fatto che dalla sinistra al Partito sì. Democratico a Scelta Civica sono tutti quanti insieme nel sostenere la mia candidatura. La sua candidatura. Dunque, praticamente è il governo che voleva fare Bersani, diciamo la verità, Cascella. È il governo che voleva fare Bersani, cioè è PD. Era l'alleanza che forse sarebbe servita per vincere le elezioni. Esatto, quello che dico io. Quello che dico io. Ma è l'alleanza per cui ti fava lei, Cascella? Beh sì, come dire, l'incontro tra le forze progressiste, le forze sì. democratiche di questo paese è una condizione essenziale, insomma, è sempre stata. Per cui lei è contrario al governissimo? Ma il governissimo diventa uno stato di necessità, una democrazia si regge sull'alternanza democratica certo, tra schieramenti che però hanno una loro conformazione, una loro, un loro carattere pieno. Cioè, no, ma questo d'accordo, ma è per lei Pasquale Cascella è un rospo? Cioè, No, è uno stato di necessità, è uno stato che risponde secondo me anche a un bisogno avvertito nel paese, quello di due schieramenti che debbono mettersi reciprocamente alla prova e reciprocamente legittimarsi per affrontare finalmente i problemi di fondo strutturali, le riforme che sono necessarie in questo paese. Dunque, da questo punto di vista lei è al 100% con Napolitano, che è stato il grande sponsor del governismo. Sembra naturale, altrimenti non avrei potuto essere. E che ne so, ha visto mai che proprio negli ultimi giorni lei ha pensato, forse è meglio, non è il governissimo, è un errore. Vabbè, io ci ho provato, che c'è, faccio il giornalista. Ma io non lo chiamerei governissimo, perché bisogna come lo chiamerebbe? Governissimo, cioè questo è il governo, è un governo parlamentare, è il governo che il Parlamento in queste condizioni è in grado di esprimere. Senta, Parenzo, lo conosci ma Cascella? Io voglio tu? Capire, beh, io Cascella. Senta, ecco, vogliamo chiedere quando è arrivata, quando è arrivato antica amicizia, e che fate? Da quanto vi conoscete? Guarda che io Cascella lo conosco da quando lavorava all'Unità, io ero un grigio funzionario del PDS. Pensa te come stavi ridotto. Hai ragione. Cascella, senta, io ero un grigio giornalista però, lui era un grigio funzionario, io ero un grigio giornalista. Cascella, ma quando e è arrivato? Noi possiamo solo dire Cascella sindaco con Napolitano che viene a darti un saluto in quella barletta, assolutamente, cioè, vogliamo vedere Napolitano lì a Barletta almeno un giorno quando tu fai campagna elettorale, almeno un giorno. No, un no, come fa? Campagna elettorale, a me piacerebbe davvero vincere e accogliere Napolitano con la fascia tricolore. Quello per forza. Senta Cascella, quando è arrivata la notizia dello scherzo a Onida, del nostro scherzo a Onida, mi racconti un po' la reazione che c'è stata? Dietro le quinte. Un po' di dietro le quinte, adesso si può dire qualcosa. Io posso dirlo che non mi è mai piaciuto molto lo scherzo. Ah beh, lei può dire, certo che può dirlo, come no. Siamo stati molto, molto, molto estremi, molto estremi. Ma non è uno scherzo. Come non è uno scherzo? Certo che è uno scherzo. Ma questa telefonata non è uno scherzo. Ma è vera, cioè che scherzo? Ah, è vera, ecco, meno male. Ma perché non, perché non l'è piaciuto, Cascella? No, ma perché quello era un momento molto, molto delicato. Sì. Ci sono delle cose, dei sentimenti, insomma, che a volte si covano dentro, si portano dentro, però poi vengono vinti, vengono sopravanzati dalla razionalità e dalla responsabilità. Voi avete fatto leva sui sentimenti occultando e in qualche modo mettendo a rischio la razionalità e la responsabilità. Però gli scherzi, sa bene. Poi avete visto, insomma, Unida si è messo alla prova, ci ha lavorato a fondo, con convinzione. Certo, per carità, ma noi abbiamo grande rispetto. Noi abbiamo grande rispetto, però esistono. No, ma noi vogliamo sapere che esistono cosa anche gli scherzi radiofonici, c'è una lunga letteratura. Ma sai, come si dice, meglio scherzare con i fanti ma lasciare in pace i santi, insomma. Addirittura. In quel momento aveva una funzione particolarmente significativa. Torno a ripetere, poi al di là degli scherzi, poi a parte il fatto che nello scherzo lui stesso si era messo in gioco, no? Assolutamente, no, ma infatti io non ho nulla da dire al professor Onida, il fatto è che esistono gli scherzi, ma che cosa è su Napolitano, come reagì? ma napoletano, mi sono accolorato più io che napoletano, se posso essere sincero, insomma. Certo, lei deve essere sincero. Vabbè, poi no, napoletano, cosa hai detto? Come sempre, con molta freddezza, parlò con Onida che si voleva dimettere, voleva rinunciare, sì, all'incarico, così come poi parlò al telefono con Quagliariello, ma con molta, come dire, invitando a non dare un valore, paradossalmente, vede, mi stava dando quasi ragione, cioè lui invitava a non sopravvalutare, diciamo così, lo scherzo, a considerarlo, sì, uno scherzo. Purtroppo la politica non sempre cioè Napolitano gli disse, è uno scherzo, è uno scherzo, però l'abbiamo superato bene, no? Ma sì, poi non se ne parlò più per vari giorni, si è conclusa la questione dei saggi, eccetera, per carità. No, ma che cosa, che espressione ha smentito il pessimismo, come beh, sì, il pessimismo è stato battuto in quel caso dall'ottimismo e dalla volontà, come direbbe Gramsci, no? Gramsci addirittura. Parenzo, che c'è? Che devi chiedere a Cacelli? No, volevo capire che espressione hai utilizzato quando hai visto la zia Ansa che batteva la cosa. Hai detto oibà oppure cazzo quei due manigoldi? Ma né l'uno né l'altro, ho detto, e adesso che combiniamo, che facciamo? No, io poi, come dire, per carattere, insomma, sono subito portato a drammatizzare immediatamente, insomma, sì, però sì, poi dopo a cercare le soluzioni, anche le soluzioni più improbabili. Senta, vi chiedo una cosa, ma il Fatto Quotidiano e la storia delle intercettazioni. Posso adesso che è tutto passato, dire invece qual è stata la prima reazione di Onida? Come no, certo, siamo qui. Non mi suiciderò, non mi posso suicidare come un infermiere inglese. sì, perché c'è stato lo scherzo famoso. No, non mi voglio suicidare, non mi posso suicidare, cioè, o non mi posso. No, era così, adesso non ricordo l'espressione esatta, ma insomma, sì, era quella l'espressione che utilizzò. Sì, sì. Senta, una cosa sulla riconferma di Napolitano. Ora, noi tutti siamo portati a credere che lui assolutamente non voleva che tutto si consumò in quelle ore, no? La moglie quanto era contraria? Sì. Io no, con la moglie non ci ho parlato, perché io quando ho preso la decisione avevo avevo la riunione per la mia candidatura a Berletta, sì, quindi sì, ero partito proprio. Sì. Ma perché lei non è rimasto alla fine? Come? Perché non è rimasto alla fine? Perché avevo preso un impegno, che cosa faccio? Siccome Ubi Maior, no? Gli impegni li rispetto sempre. So che, come dire, ho un legame con Napolitano che varrà sempre, che insomma sono 21 anni. Ma secondo lei resterà 7 anni? Come? Secondo lei resterà 7 anni Cacella Napolitano? No. Quanto resterà secondo lei? Ah no, questo non ho proprio idea, ma credo che sia stato un rinnovo funzionale, ecco, il presidente si sia dato, diciamo così, una missione e una funzione. Credo che ma si può prevedere, che ne so, due anni? Come... Si può prevedere due anni? Il tempo per le riforme, il tempo per far uscire il paese da una transizione che rischiava di essere infinita, che, come dire, stava ormai diventando una palla al piede dello sviluppo, della crescita, insomma. Per cui, non so, si può prevedere tre anni, che ne so, tre anni, più o meno. No, speriamo molto prima. Molto prima, lei dice? No. Quei 18... È necessario per fare riforme vere e serie, finalmente, che a questo paese servono davvero da tempo. Fisicamente sta bene, presidente? Sì, come no, lo si vede. No, ma infatti è grande forma. Le apparizioni pubbliche non mancano, no? No, ma assolutamente, assolutamente. Parenzo, che c'è? No, voglio dire, però diminuirà un po' tutti questi impegni in giro, sai, anche lui. Vabbè, ma non è che cambia la forza fisica. Dimmi, ma fai una domanda a Cacella, no? Come dire, per qualche ragione fisica, ma proprio per concentrarsi sulle cose da fare. Non è un compito da nulla quello che si dovrà affrontare, certo, adesso. Senta, posso avere una curiosità? Cosa si... ma sulla mia candidatura mi fate parlare però della, ma del sì, fatto, diciamo, eh? Ma lei è candidato, ma l'abbiamo già detto, SEL, l'appoggiano tutti tranne il PDL, perché non ha cercato l'accordo pure con il PDL? Che c'è? Ma perché c'era già un candidato del PDL? E che ne so, hai visto mai col governo di larghe intese? Col governo di larghe intese si fa pure. Diventava sindaco, no, in carrozza. No. Io farò il sindaco di tutti, questo mi pare fuori discussione. Se dovessi diventare sindaco, guardando. Però io credo che ci... Ma lei ce l'ha la tessera? La tessera del PD ce l'ha? La tessera del PD ce l'ha, Cascella? Sono io la tessera del PD. No, lei ce l'ha la tessera. Non ho per la verità tessere. Non sono per la verità a essere di partito. Appunto questo. Per, come dire, rispettoso della funzione istituzionale per i 7 anni. E perché non la prende? Non perché non la prende? La tessera del partito, quindi non ho la tessera. Però io, come dire, mi riconosco in quella parte riformista della, sì, del PD. Lo sento molto questa sintonia. Ma perché non la prende la tessera? Storicamente la mia formazione, sì, politica è stata quella. Insomma, perché non la prende Monte, la tessera? Ma Politano, insomma. Perché non la prende la tessera? Adesso. No, non l'ho presa, ho detto che non ce l'ho adesso magari la prenderà. Adesso vediamo. Senta, ma il futuro del PD è... Politano ce l'ha ancora la tessera. Sarà un congresso e probabilmente anch'io vorrò dire la mia, insomma. Certo, senta, ma... Voglio ma capire... Napolitano ce l'ha la tessera del PD, però. Non ho capito. No, se il presidente c'ha la tessera del PD. No, credo proprio di no. Ah. No, che ne so, è una domanda, magari... Credo, non, però voglio dire, se ce l'ha un fatto personale, ma credo di no. Non ce l'ha. Senta un attimo, ma quanto ha sofferto il Presidente, per esempio, per gli attacchi del Fatto Quotidiano sulla storia delle intercettazioni che poi portarono alla cosa drammatica? Perché avrebbe dovuto soffrire per gli attacchi del... No, per la... Il Fatto Quotidiano fa il suo mestiere, insomma, fa polemiche di mestiere, no? Sì. Beh, avrà sofferto la vicenda di D'Ambrosio, eccetera, eccetera, fu scaturito. Sì, quella no, lo stesso, cioè, parla di quello non, però quella non è una polemica. No, quello è stato... è un'altra cosa. Però le polemiche innescate dal Fatto Quotidiano, da Travaglio, questi attacchi frontali da parte di un organo di stampa che è molto ascoltato, la trasmissione di Travaglio, eccetera, lo fanno soffrire molto, il Presidente? Ma guardi, tocca la domanda a Travaglio se c'ha problemi di coscienza. Questa è l'unica domanda che serve. Cioè, su che cosa, per esempio? Sulla morte di D'Ambrosio? Su quello che ha fatto, sul modo in cui ha fatto informazione. Se quello è un modo corretto di fare informazione, io sono convinto che non lo sia. Ma è un giornale di manganellatori? Una cosa non mi interessa. Non mi interessa definire quel giornale. È un giornale. Io però mi chiedo come alcuni su quel giornale facciano informazione. E questo riguarda la loro deontologia professionale e la loro coscienza personale, individuale. Ma questo riguardo anche al suicidio di D'Ambrosio, dice lei? Io sto parlando, lei mi ha fatto la domanda su questo, no? Sì, su questo, certo. Allora, no. Io stavo rispondendo su questo. No, certo. No, volevo sapere se il Presidente... Il Presidente ha parlato, cioè... No, se il Presidente... Quando è accaduto quello che è accaduto, il Presidente fece una dichiarazione che credo fosse molto sentita, molto... molto sofferta. Io mi riconosco perfettamente in quella dichiarazione. Beh, ci mancherebbe altro, ovviamente. Ma lei lo sento ancora adesso come vera quella dichiarazione. Certo. Ecco, questo volevo dire. No, ma quando lei dice il Fatto Quotidiano è un giornale, quello tutti siamo d'accordo, ma come ha usato l'informazione in quel caso? Io sono sempre rispettoso della libertà di informazione. Dopodiché dico che c'è una deontologia professionale e c'è una coscienza personale. Le mie osservazioni riguardano soltanto la deontologia professionale. Che è stata violata, secondo lei, la deontologia in quel caso? Cioè, si è... Io credo proprio di sì. Parenzo, quello è stato un... come dire, un attacco mirato sulla persona, che non ho... Sulla persona lei parla di D'Ambrosio o di Napolitano? Parlo di D'Ambrosio, sì, certo. D'Ambrosio, certo. Allora, abbiamo la pubblicità, torniamo tra un attimo con Pasquale Cascella, ex portavoce del Presidente Napolitano, candidato sindaco a Barletta, con una coalizione pazzesca che va dal Partito Democratico a Scelta Civica, eppure SEL, cioè è la stessa coalizione che avrebbe voluto alla fine anche Bersani. La Zanzara. È ancora il caso, Simo. Parenzo, Io voglio essere, io voglio essere invitato da Cascella quando diventerà sindaco di Barletta, eh. Sempre con la fascia tricolore? No, io voglio essere invitato ufficialmente a facciamo una grande diretta della Zanzara da Barletta in, in piazza. È un altro degli impegni che posso aggiungere nella, nel programma elettorale, va bene? Va bene, insomma, lo sa perché, Cascella? Vorremmo anche il patrocinio, se possibile, del comune. Posso dire una, cosa giusto per, come dire, per la correttezza dell'informazione che ci contraddistingue, almeno in questa, occasione. Sì. Come hai detto prima, una coalizione che passando per il PD fino a Sella. Sì. In questo caso non è soltanto Sella, è la sinistra unita, cioè un raggruppamento di sinistra che prende Sella, che ha dentro Rifondazione, pure i comunisti ci sono, la sinistra del lavoro, cioè ci sono varie, e poi soprattutto ci sono tanti tanti movimenti. La cosa più bella che come dire, mi ha vincolato, mi ha legato a questa candidatura anche dopo che il Presidente della Repubblica ha accettato la rielezione da parte del Parlamento, è stato il fatto che c'erano tanti movimenti, tanti giovani che hanno bisogno di una speranza di fiducia a cui, a cui non potevo non corrispondere. Senta Cascella, mi dica una, ci può dire, tanto ormai è finita la storia, un'espressione che ha utilizzato Napolitano quando ha accettato di essere ricandidato, in quei momenti lì, in quei giorni lì, cioè per capire un po' anche la sua, no, la sua riluttanza a, a tornare a essere rieletto. Ma un'espressione un'espressione è quella che i presidenti delle regioni avevano reso pubblico, insomma, non può essere soltanto una mia responsabilità. Per la verità, quella stessa mattina io poi non, ma veramente lui non ci ha mai pensato, davvero lui non ci ha mai pensato ad essere rieletto? No, altrimenti mica accettavo come io di candidarmi al sindaco di Barletta, ma lui aveva già in mano le chiavi del suo ufficio al Senato, perché ovviamente i Presidenti della Repubblica diventano senatori a vita di diritto, come, come prevede la, legge e la Costituzione, e lui aveva già spostato i suoi libri, le sue fotografie, i suoi quadri nell'ufficio al Senato, aveva già le chiavi in mano, insomma. Aveva già le chiavi in mano del Senato. No, no, del Senato no. Beh, no, del Senato, dell'ufficio al Senato, sì. No, no, no, per carità. Senta, ma il matrimonio PD-PDL non è un po' contro natura? Perché non è un matrimonio? Vabbè, è un matrimonio, un governo, un matrimonio in termine giornalistico. Cascella, lei è stato diciamo che è una convivenza temporanea. Cioè convivenza temporanea. Convivenza temporanea, anche convivenza. Ma lei che è del PD storicamente, all'ora dell'unità, non le fa un po'. Molti hanno usato la parola, non le fa un po' impressione stare con Berlusconi insieme? Berlusconi è un personaggio con cui si sta bene insieme, abbastanza. Cioè? Il problema è, ci sta bene, che vuol dire? Essere, fare convivio con Berlusconi, il problema è fare politica, tant'è no, che si è cominciato a vedere, mi pare, già oggi, no? No, voglio capire, non, lei non trova imbarazzo a stare con Berlusconi, lo considera un grande statista? Perché lo considero una personalità politica votata dagli elettori di questo paese, e non è che possiamo dimenticarcelo, insomma. Cioè, a piena che vuole fare? Crede che una parte dei voti di questo paese non siano validi? Cioè, a piena legittimità, lei dice? Cioè, uno... certo, ma non è che una. Ma sa, alcuni dicono che è ineleggibile. Io, glielo danno gli elettori. Ma alcuni dicono che sia ineleggibile, addirittura, lei lo sa, no? Cioè, come? Alcuni dicono che sia addirittura ineleggibile Napolitano e Berlusconi. Beh, anche Zanda. No, Zanda, mi pare Berlusconi. Ma la verità, cioè, il problema è quello. Allora bisogna costruire norme adeguate, poi non, l'intelligibilità non è un parere che può dare lei o che posso, no, dare, certo, o certo, posso dare io. L'intelligibilità è pronunciata dal Parlamento, certo. E mi pare che Berlusconi sia parlamentare dal 1994. Dunque però, non esiste questa questione dell'intelligibilità. Non siamo noi che possiamo decidere, insomma, voglio dire, ci sono gli organismi preposti per queste decisioni. Le voglio fare una sorpresa. Prima di tutto tocca agli elettori, che sanno benissimo chi è Berlusconi quando entrano nelle urne e lo votano. Ah certo, dunque gli elettori danno in qualche modo la garanzia che Berlusconi sia eleggibile, insomma, cioè, sono gli elettori che decidono. No, non è che sia, l'hanno eletto, no, certo. Lo hanno eletto, dopodiché se si ritiene che debba essere ineleggibile, allora sì, bisogna avanzare proposte, trovare il consenso elettorale perché quelle proposte abbiano una maggioranza e approvarle nel Parlamento, questo sì. Le voglio fare una sorpresa, un attimo. Caro Presidente, come sta? Come sta, Presidente? Finalmente eletta, ha avuto la fiducia. È contento, Presidente? Buonasera, innanzitutto. Il mio saluto vada innanzitutto affettuoso al caro Pasquale Cascella, cui vanno i miei più fervidi auguri per una brillante campagna elettorale, uomo capace che darà speranza a una città già provata, ma nella quale, confermo, andrò in visita ufficiale accolto dalla fascia tricolore. Eccoci, Cascella, saluti Presidente. Benissimo. Bene, Aspetterò soltanto quel momento. Straordinario. Presidente, non la vogliamo disturbare, solo un piccolo saluto qui al suo ex portavoce, Pasquale Cascella. È contento della conclusione della vicenda governativa, Presidente? Così, giusto? Devo dire, smentendo... Sì. Il mio ex portavoce, che in realtà io intendo restare 7 anni al Quirinale, non ho alcuna intenzione di muovermi. Si sta benissimo, ora vediamo il premio. Ma si sta bene anche a Berletta, lo invito a Berletta, va bene? Confermo l'intenzione affettuosa e viva di visitare la ridente città. Bene. Ovviamente retta da cotanto sindaco. In conclusione, Presidente, la solita cosa nostra che facciamo quando parliamo con lei, ma il menù di stasera lì al Quirinale, qual è, Presidente? Scusi. Sono oramai le 20:05, stiamo cimentando, la signora Clio ed io, perché sapete, Letta oramai è partito, ora lo stiamo aspettando che torna da Berlino, probabilmente passa di qua, quindi questa sera diamo sicuramente conto di... Abbiamo preparato spaghetti con cozze e pomodorini pelati. Beh, non è male. Accompagnati da insalata di rinforzo. Bene, Presidente, grazie, buona serata, grazie. Una sua battuta per chiudere, noi oggi abbiamo consegnato le stelle al lavoro, al merito del lavoro, abbiamo anche deciso una volta all'anno di togliere un titolo. E allora? E quest'anno togliamo il titolo di professore a Onida. Ma come no? Ma professore, no. Io dica lei, sì, professore, Presidente Cascella, io dica lei che alla fine è tutto rientrato. Ma tanto il titolo di professore non lo può togliere nessuno. Appunto. Se noi possiamo aggiungere una stella al merito. E perché? Ah. Perché stella al merito, dice lei, Cascella? Alla perché fine. Udita è uno che lavora ancora, no? Certo, questo non c'è dubbio. Nonostante lo scherzo che gli avete fatto, si è messo lì a lavorare. Assolutamente. Vedete quanto fuori qualcosa che adesso è utile e che ci farà anche risparmiare un po' di tempo, così il Presidente potrà tranquillamente poi godersi insomma le sue già rimpiangiamo il consigliere Cascella. Grazie, Presidente, grazie. Buonasera a voi, viva l'Italia. Senta, ma Presidente, cosa mangia la sera? Lei lo sa, Cascella? Io so che al Presidente piace molto gli spaghetti col pomodoro, gli spaghetti con le vongole veraci. Ah, è vero, allora è vero. Quindi è vero. Non con le cozze, con le vongole veraci. Le vongole veraci. Senta, ma con Berlusconi ha molto figlio. Io ho l'impressione che poi le verdure e le insalate. Verdure e insalate, tutto corrisponde. Insomma, è una cosa pazzesca. Scusi un attimo, ma non insalate rinforzate, quella sa il Presidente ogni tanto quando si esprime. Magari usa con noi alla Zanzara un lessico un po' colorito. Semplice, è un uomo molto semplice. Scusi un attimo, ma con Berlusconi io ho l'impressione che ci sia molto feeling, no? Tra il Presidente e Berlusconi. Un rapporto quasi speciale. Con Berlusconi ci sia un rapporto quasi speciale tra Napolitano e... Come hai detto? Tra Napolitano e Berlusconi. Ho impressione che si sia instaurato in questi anni molto feeling, o no? Sì. No, la mia impressione. No, se lo dice lei, se ha questa impressione. Lei lo dice come se stessi dicendo una stupidaggine, però, Gascella. No, nella maniera più assoluta. Io invece. Il rapporto istituzionale che si deve con il Presidente del Consiglio quando è in carica o con il leader dello schieramento di opposizione. Ma lei è molto istituzionale in questa risposta. Napolitano è una figura rigorosamente istituzionale, quindi che rispetta sia il Presidente del Consiglio quando ha la maggioranza del Paese. O ugualmente rispetta il Presidente del partito che su quale si incardina l'opposizione, perché in una democrazia è una questione essenziale anche l'opposizione. Senta, vabbè, lei in questa risposta è molto istituzionale, Gascella. Ma io l'ho fatto. Lo so. Non è che all'improvviso mi candido. Impazzisce, no? Impazzisce, non c'è dubbio. Senta, però mi dica una cosa, la storia del Bunga Bunga l'ha messo, il presidente è stato in imbarazzo anche quando andava all'estero con Berlusconi. La storia del Bunga Bunga, di Berlusconi, le donne, Arcore, le feste, o no? Questo si può dire. No? Vabbè, come, quale storia? La storia del Bunga Bunga. Ne parlano i giornali, quindi anche all'estero leggono i giornali. No, ma dico, Napolitano è stato in imbarazzo per questa storia, no? Che diceva? No, imbarazzo perché nessuno... Perché imbarazzo? Perché... c'è un codice istituzionale che vale anche per i capi di Stato esteri che stanno hanno i loro elementi, non è che mettono avanti cose di questo genere o mettono in imbarazzo, quindi loro non l'hanno messo in imbarazzo, il Presidente non si è sentito in imbarazzo. Ho capito. Anche qui risposta molto istituzionale, però la capisco, questa risposta. La capisco. Gli avranno fatto delle domande? Non lo so. Cioè. No, ma che ne so. C'è stata una volta che lui era molto imbarazzo per la dichiarazione di qualche politico, per esempio di qualche politico leghista. Lui ogni tanto era in imbarazzo, che ne so. Frasi dette da. L'ho anche detto. In imbarazzo. No, so, vogliamo molti. Mi pare che. Voglio dire, ogni volta che c'era qualcosa da dire, lui l'ha detta. A Berlusconi come a Bossi. In termini istituzionali il Presidente l'ha sempre fatto con molto rigore. Ma invece è vero che è stato deluso? Ma non l'ha fatto in termini istituzionali. Se poi uno immagina che la vita del Paese debba essere vissuta o dettata dai retroscena giornalistici, no, per mi carità. Dispiace, ma non è così, insomma, la responsabilità istituzionale è tutt'altra cosa. Senta, un'ultimissima cosa, secondo lei il suo preferito per la segreteria del Partito Democratico, dato che lei comunque, se non la prenderà, magari comunque si sente del Partito Democratico, chi vorrebbe segretario del PD? Faremo un congresso su questo. No, ma lei il suo preferito. Che ne so, Renzi? Renzi lo vorrebbe a capo del partito? Ma allora, Renzi come Barca, come Bersani, sono tutte figure. Vediamo un attimo che cosa riescono a mettere in campo e poi non si vuole sbilanciare. Sarà il risultato migliore. Non si vuole sbilanciare. No. Però, diciamo. Grazie, Gascella. Presto. No, mi sbilancio per me stesso. Lo so, questo lo sappiamo. Nel mio piccolo, in quello che sto facendo. La rinvitiamo. La rinvitiamo qui, Barletta. Noi vogliamo l'ex portavoce napolitano sindaco di Barletta. La Zanzara fa il tifo per lei. Gascella, grazie. Un abbraccio. A presto. Grazie. Salute. Pubblicità, torniamo subito. La Zanzara. Perché Balotelli non fa il ministro, tira calci al pallone, e nel tirare calci al pallone va bene anche un congolese, un nigeriano, va benissimo, capisci? Non fa il ministro dello sport, ecco. Perché la cittadinanza viene data un po' alla cazzo, e parliamoci chiaro, quindi questo, che uno sia diventato cittadino italiano non è che sia il timbro sulla sua, poi magari in questo caso si tratta di una bravissima persona, devo dire che l'espressione è simpatica, mi sembra una brava casalinga, ecco, la vedrei molto bene come assistente sociale di un comune di 500 abitanti, non ministro. seguitemi su. Beh, secondo lei gli africani sono anche un po' inferiori intellettualmente, dice lei? No, non hanno prodotto, lei dice, grandi geni. Questo direi basta consultare l'enciclopedia di Topolino per saperlo. E non occorre che lo dica io. Questo era il meglio di Borghezio di ieri sera. 800 24 00 24. Dove andiamo? Gianluca dalla provincia di Roma. Battaglia. Parenzo, dove sei? Sono a casa, a Roma, nella terrazza. Allora, sei rinchiuso in terrazza? Ti hanno esiliato in terrazza? Sono mia figlia che sta mangiando una carota e io sono chiuso, sono sulla terrazza. Allora, intanto, in un'intervista di Josefa Idem, neo ministro alla Bild tedesca, la Idem, il ministro, dice il risentimento nei confronti della Merkel da parte degli italiani è comprensibile. Beh, devo dire che un ministro che proprio mentre Letta va a Berlino si esprime in questo modo. Ma questi qua, ma perché fanno queste gaffe immediate, proprio subitanee, no? Beh, in questo caso però difende, dovrebbe piacere a chi... No, ma lascia perdere, però è un ministro del governo Letta che critica la Merkel quando Letta va dalla Merkel, insomma questa è la sostanza. No, ma in questo caso però... Sì, dovrebbe compiacere... Gli interessi nazionali. Sì, non c'è dubbio, gli interessi nazionali, poi bisogna vedere quali sono gli interessi nazionali. Dovrebbe compiacere quella parte che invece... ha detto una cosa... Non siamo sempre quelli che condividono, quelli che parlano alla pancia e al popolo. Questo è quello che il popolo Gianluca provincia di Roma. Gianluca provincia di Roma. Buonasera Cruciani. Vada. Senti, ho provato finalmente per non ho capito che lei è un demerito. No, ma no, non si sente bene, anche se lei mi vuole dare del coglione, Gianluca, non si sente, questo è il punto. Non Non so cosa fare. Siccome è lei che ha chiamato, ma non è un problema nostro, è un problema suo, cerchi di parlare bene così risolviamo. Io sto al telefono, ho scritto la radio. No, ma evidentemente sta con il telefono portatile o cose di questo tipo. La richiamiamo noi, Francesco da Foggia, buonasera. Buonasera. Volevo rispondere a Cruciani, a Parenzo, che si chiede sempre perché chiamano delle persone con evidenti problemi mentali. Sì. La risposta è nella sua presenza. Cioè, nella presenza di chi, scusi? Nella presenza di chi? Di Parenzo. Nella risposta di Parenzo. Ma che cosa c'hanno i telefoni oggi? Francesco, vada. Volevo dire che la risposta all'omicidio di Parenzo, del fatto che perché chiamano persone con evidenti problemi mentali alla Zanzara, sì, è la sua presenza, cioè è normale, sì, anche il fatto che chiamate, cioè lei si sta Borghezio, cioè è evidente, no? Sì, cioè lei dice Francesco da Foggia, io chiamo perché ci sono Giovanardi, Borghezio, eccetera, cioè, no, si non sta... io, i malati mentali di cui vi lamentate. Lei potrebbe far parte dei malati mentali tranquillamente, no? No, assolutamente lei, lei no, io ritengo persona di Parenzo. Guardi, non si capisce, Claudio da Roma, su. Ma non si capisce, che vogliamo fare? O c'è un problema di telefoni mondiale, italiano, oppure non lo capisco. Claudio da Roma. Pronto? Sì, vada. Mi sente? Sì. Sente bene. Senta, allora, volevo iniziare l'indole questo. Sono 2:15 che sento pazientemente la radio. Sì, vabbè, allora, Claudio, su. Dopo la vescica di Lardo di Borghezio, che io lo caccerei e toglierei la cittadinanza per dare l'accento extracomunitario. Poi Cascella non lo voterei manco se si chiamasse Ettore Fieramosca. E per finire Cascella, perché tutte quelle stronzate sul Fatto Quotidiano, l'unico giornale che dice la verità è trasparente, ma un giorno in groia ci dirà cosa c'era nella registrazione e capiremo chi ci aveva ragione. Tanto più lontano della Valle d'Aosta non lo possiamo mandare. E per ultimo, io vorrei pagare 3 volte l'IMU. Sì, ma perché sono tutti contenti? Perché sono tutti contenti di pagare l'IMU? Anche perché, oggi i sindacati hanno detto: siamo 56 milioni di italiani che stiamo tutti attaccati a 200 euro di IMU, quando dietro i problemi sono più grossi. Ma veramente io Berlusconi lo voglio in galera, ma nella Costa Rica potrebbe andare. A che fare? O vicino Tunisi, a che sullo fare? Yacht del Bossi Senior, da 2,5 milioni. Lui si mette col suo yacht vicino e lì ci stanno minorenni a Iosa. Lei farà anche lui un tatuaggio con l'aquila dietro la schiena e noi vivremo felici e contenti. Beh, e poi per ultimo vorrei dire che nelle scuole una buona lezione sarebbe risentire continuamente l'intervento di Colletti in Parlamento e un bel libro dei 100 tu passi, li abbinerei insieme per tutti gli studenti delle medie, inferiori e superiori. Quello adesso lei vuole fare pure il professore, vuole fare pure il ministro dell'istruzione. Per finire, sì, vorrei dire all'amico Parenzo, che a me è tanto simpatico, di non unire la Lega al Movimento 5 Stelle, perché quella è veramente un qualcosa al di fuori di ogni logica di una persona sana. Calma, tranquillità, serenità. Ha capito, Claudio? Vuole seguire l'insegnamento? Non ho capito, vuole seguire l'insegnamento di Prodi? Calma, tranquillità, serenità. Bisognerebbe seguire questo consiglio. Prodi, a me la mortadella piace, mi piace anche Prodi. Anche lì in Parlamento è stata fatta una cosa allucinante e adesso quei personaggi che tiravano le fette di mortadella senza pistacchio, oltretutto, si mettono a fare i professori voler insegnare agli altri come mettersi in Parlamento, perché la Salta Martarelli Mincarelli, come cazzo si chiama, Salta Martini, invece di vedere la schifezza che c'è nel suo partito, si è permessa di riprendere il vicepresidente della Camera dei Deputati per aver sbagliato una vocale. Ma vi rendete conto a che punto siamo? È Claudio, una vergogna. Ci rendiamo conto, noi ci rendiamo conto, grazie. Chi è il peggiore, Borghezio o quelli che lo intervistano? Come i più affezionati lettori di questo blog sanno, ho smesso di invitare alle mie trasmissioni Mario Borghezio da quando definì patriota il criminale di guerra serbo-bosniaco Mladic, responsabile della strage di 8.000 civili a Srebrenica. Scrive Lerner, come se questo lo salvasse, aggiungo io, dalle decine di volte in cui è stato invitato Borghezio prima, ora semplicemente perché a un certo punto ha detto patriota, ha chiamato patriota, che poi non è nemmeno una delle peggiori, no? Che ha detto Borghezio, lo ha eliminato dalle sue trasmissioni. Complimenti. Lo stesso metodo utilizzato per altri personaggi di cui parleremo magari qualche volta. Non ho alcun interesse a riportarvi dunque le volgarità indirizzate da questo deputato europeo della Lega all'indirizzo della neo ministra per l'integrazione Cécile Kyenge, che sarà ospite della puntata di venerdì di Lerner. Rilevo soltanto che cercare Borghezio e intervistarlo su questo tema, come hanno fatto la solita Zanzara e prima ancora Un Giorno da Pecora, due trasmissioni radiofoniche che si compiacciono di praticare satira giornalistica, equivale a rimestare nell'ovvio con pigrizia e corrività. Bravi, che bello scoop. Non so davvero chi sia il peggiore fra Borghezio e i suoi pigri aizzatori telefonici. Sergio da Roma. Pronto, mi sente? Sì, dica, vada. Allora, niente. Ieri avevo chiamato perché ho sentito Giovannardi in cui mettevano tutte le pistole in mano al Movimento 5 Stelle, loro sono tutti i santi e di qua tutti i delinquenti. E invece che abbiamo tutte le regioni sotto inchiesta, rubavano a destra e a sinistra, gli stessi che stavano in regione oggi sono in Parlamento perché non è cambiato niente. E si offendono se qualcuno, fermo restando che condivido quello che ha detto lei, una persona come che ha fatto quell'atto è un cretino, se voleva fare una cosa eclatante, se sparava lui, buonanotte, anche se condivido che la gente si ammazzi, e allora? Come ha fatto. E allora? Però penso che se oggi o ieri o nel futuro, perché qui c'è una dittatura, no? Noi non riusciamo a mandare via. Ma dittatura di che? Cos'è? Quale? Quale quelli dittatura? Che abbiamo un Parlamento. Ma che sta dicendo? Ma lei è malato di mente, ma di che parla? Di ma quale lei dittatura? È malato di mente, perché ma quale dittatura parla? Ma tutti nominati, quella è un'autodittatura. Ma quando mai? Ma che dice? È un'autodittatura. Ma lei perché sta, ma lei ragiona? Ma lei ragiona oppure è come no, dire? Ma lei mi dica se ragiona, ma lei l'ha vista quella faccia, oppure quello di Bertinotti, De Fini, ma oppure lei è tecnicamente pazzo, lei, a parte che no, c'entra io Fini. Sono normale, lei mi dica se ha votato qualcuno c'entra, che sta in Parlamento, ma che c'entra Fini e Bertinotti poi che non ci sono più in Parlamento? No, i Bertinotti domenica sera hanno fatto un bel servizietto su lui, che ancora si prende l'auto. Ah, gli uffici, lei dice, gli uffici da ex presidente della Camera, sì, ma quella è una vergogna che va abolita, non lasciano niente, ma quella è una vergogna. Allora, in questa vergogna, siccome c'è per me un modo per mandarli via, gli italiani ce n'hanno solo uno. E qual è? La violenza. Come hanno fatto in Egitto, come hanno fatto con Gheddafi. Se no questi se ne vanno. Ma perché non prende una pistola? Perché non prende una pistola e un fucile? Poi se mi toccano qualcosa farò anche quello. Certo non mi ammazzo. Non ho capito, se le toccano qualcosa, cosa, Sergio? Farò anche quello, perché a me mi hanno stancato. Lì non c'è gente eletta. Va bene, Sergio, ma ho capito, se le toccano qualcosa, cosa? No, ma restando ci difenderò in qualche maniera, troverò il modo, perché lì ci stanno dei dittatori che sono messi lì da soli perché si autoleggono. Parenzo, di qualcosa. Parenzo, di qualcosa, fanno? Tu che hai una figlia. Ma prendiamo le generalità, arrestatelo subito. Ma arrestatelo subito, fermatelo, prendete le generalità, via patente e libretto. No, tenete Gasbarri che parla e dice che gli altri sono violenti. Lui, quella persona ha detto che voleva occuparsene della camera. Patente libretto, si fermi, patente libretto. Ma che sta dicendo? Ma voi siete a difesa di tutta questa gente. Patente libretto, declina la sua generalità, per cortesia. Sergio, grazie. Paolo da Palermo, anzi, ma aspettiamo un attimo. Ha detto che vuole sparare, dice grazie. Dici grazie a tutti. Dice uno, chiama e dice, guarda, mignotta, maledetto, io gli sparo in faccia. Va bene, grazie. Franco da Napoli. Come Franco? Beh, ha detto, mignotta, gli sparo in faccia. L'ammazzo, Franco da Napoli, grazie, traffico. Ma come? Ma quello ha detto che vuole sparare. E cosa devo fare? Devo dare il nome alla Digos? Grazie pure, va bene, devo dare il nome alla Digos? Va bene, d'accordo, allora mi hai convinto. Da questo momento in poi chiunque dice che bisogna sparare... Grazie del suo contributo. No, questo non l'ho detto, lo dici tu. Il primo che dice voglio sparare, comunico il numero di telefono alla Digos. Di una violenza pazzesca, dice va bene, d'accordo, grazie. Ma come grazie? Grazie. E che devo fare? Vaffanculo, già gli ho detto che è tecnicamente pazzo, non è che lo posso mandare a fare in culo 20 volte. Paese, no, chiudigli il telefono in faccia, no? Grazie, dice grazie, ma come grazie? Allora, Pia Locatelli, lo sai chi è Pia Locatelli? No, una deputata. L'onorevole Pia Locatelli è stata. Ribadisco anche oggi, aspetta, che il comportamento. Sì, vabbè, chi se ne frega. Ribadisco anche oggi che il comportamento di Borghezio alla Zanzara è inaccettabile, unisce sessismo al bieco razzismo. E ha ragione, Pia. Ma ha ragione cosa? Ti diverti? Mando anch'io una dichiarazione. La tua amica Pia Locatelli, che saluto ovviamente, Pia Locatelli, deve sapere, sì, ma deve sapere, non so se è ancora deputata, non credo, deve come sapere, no? Sì, è ancora deputata, sì, deve sapere che il suo amico Parenzo, la sera prima di andare a dormire per caricarsi o quando è depresso per caricarsi, ascolta la collection di Mario Borghezio. Ma lo ascolto Borsa. Con quella dose di ma che dose? Ti diverti e ridi come un pazzo? Ti diverti e ridi come un matto, dai su Borsa, ma dai. È ovvio che si diverte, purtroppo, perché sentire quelle cose lì è agghiacciato. Dopodiché se uno deve fare una riflessione politica non può che ma la riflessione politica Borsa. La Zanzara. Non mi molesti moschitto, non mi molesti moschitto, è finita, non mi molesti, è finita, è finita. Non mi molesti moschitto. Bisogna vedere per chi è finita, però, Parenzo, perché qui non è che il 5 Stelle sia messo benissimo, eh. Alla lunga è finita per loro, alla lunga. Sei alla contento, lunga. Ridi, sei contento. Sentiamo oggi i pochi che si sono opposti in Parlamento, al Senato, a Letta, per esempio Corradino Mineo, il mitico Corradino, ex direttore di Rai News 24, che dice Golia è l'azionista di maggioranza del suo governo, rivolto a Letta. Il suo governo nasce fragile, perché il Golia di cui lei parla non è fuori dal palazzo, siede in quest'aula, sostiene il suo governo, ne è l'azionista di riferimento. Lei, Presidente, si è dato 18 mesi di tempo per verificare se la coabitazione tra Davide e Golia sia o no contro natura. Glieli concedo. Ma è burrito, non mi molesti moschito, why don't you go home? Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Bene, siamo qui, Lazzario, provincia di Caserta. Buonasera. Buonasera. Vada, non c'è più. Maurizio da Verona. Maurizio da Verona, veloce. Sì, buonasera, grazie di avermi chiamato. No, io volevo ritornare un attimo sulle affermazioni di quel professore 5 Stelle che ha chiamato verso le 7, di cui non so il nome, ma sarebbe proprio un nome da dire alla Digos, perché uno che dice non arrabbiatevi se poi la gente prende i fucili, di fatto giustifica il fatto che la gente prende i fucili. Quindi è inutile che poi ci lamentino che vengono accusati di essere dei fomentatori di violenza. Di fatto, facendo questo similbonismo non fanno altro che istigare proprio la violenza, perché poi la gente risponde con quel signore di Roma di prima, no? che è andato prima. Beh certo, la frase di Becchi è stata piuttosto pesante, insomma, devo dire la verità, è stata piuttosto pesante, però è una reazione che viene legittimata da quando degli ideologi come quelli di prima dicono frasi di questo genere, che sono gravissime, sono frasi gravissime, sono frasi da censurare in maniera più assoluta. Tu non hai sentito Parenzo, non hai sentito nulla perché eri impegnato in altre cose. Parenzo si arrabbiava come un serpente per conto mio, perché è veramente una cosa fuori da... Cioè dire, poi non arrabbiatevi se la gente prende i fucili, è come dire alla gente prende i fucili che nessuno si deve arrabbiare. Questo è il nesso della cosa. E quando si parla con il Topolino che ha votato 5 Stelle, sì, sono tutti così, la pensano così. Li ho sentiti ieri che dicevano, ma poverino, quello lì dicono che è pazzo e invece ha fatto bene a sparare al carabiniere, poveraccio, a 1200 euro al mese. Cioè questa è la logica che viene fuori da un gruppo di pecoroni ingenui guidati da due pazzi scatenati, uno si chiama Grillo e l'altro si chiama Casaleggio. Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'uomo. Marino! Eccoci, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, buonasera a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Come stai Marino Mastrangeli, ex senatore, anzi no, senatore ma ex 5 Stelle, ormai praticamente è stata decisa? Assolutissimamente no, io ma sono come iscritto no? al Movimento 5 Stelle, sono un attivista del Movimento 5 Stelle. Ma t'hanno cacciato oggi? La legge mi consente di utilizzare ancora il simbolo del Movimento 5 Stelle, quindi sono un senatore del Movimento 5 Stelle, magari non più nel gruppo parlamentare ma sempre del Movimento 5 Stelle. Ah, ho capito. Scusa un attimo, Marino, vorrei chiederti una cosa, ma dunque tu continuerai ad utilizzare il simbolo 5 Stelle? E certo, me lo consente la legge, adesso lo sto verificando proprio con i miei avvocati, che sono i miei due avvocati, sono tra l'altro due attivisti ed iscritti al Movimento 5 Stelle. Pure. Stiamo proprio verificando questa cosa, ma ci sono già dei precedenti, penso proprio di sì. Sono stato eletto con una lista e chiaramente fino alla fine della legislatura posso utilizzare quel simbolo. Io sono stato oggi, anche se è stata pirottata... Sì. Pazzescamente la votazione. In che senso? Scusa, è stata? La votazione è stata? Non ho capito, scusa. Però la minoranza interna al Movimento 5 Stelle. Cioè vuoi fare la minoranza al 5 Stelle? C'è la corrente? Eh certo, io ho sempre tutelato le minoranze, perché le maggioranze si autotutelano con la forza dei propri numeri, sono le minoranze che hanno bisogno di tutela. Ma non esistono nella concezione di Grillo, non esiste la maggioranza e la minoranza, le correnti, non esiste tutta questa roba qua. Tante le maggioranze, quanto a millesimo di iscritto, Casaleggio idem, io idem, tutti gli iscritti valgono un quattamillesimo. Sì, ho capito, però stanno oggi con una votazione online, ti hanno cacciato dal movimento, punto. Fatene una ragione, tieni tutti i soldi. Soprattutto tieni i soldi, cioè adesso che passi al gruppo misto. Dal Movimento 5 Stelle bisogna essere iscritti ad altri partiti, io non sono iscritto a nessun altro partito. No, ma hai violato delle regole. Non sono mai stato. Sì, però scusa, Marino, secondo loro hai violato delle regole, adesso giusto o sbagliato che sia, perché tu contesti questa votazione online? Scusa, no, Marino. Assolutamente, io non ho violato assolutamente nulla, infatti nella memoria difensiva dei miei avvocati c'è anche scritto che ricorreremo anche al tribunale ordinario, quindi al tribunale civile di addirittura Roma, addirittura. Certo, è logico. Cioè tu sei arrivi fino a Strasburgo. Io non ho violato nulla, è assolutamente illegittimo sia nel merito che nella forma. Cioè, scusami un attimo, Marino. Non c'era nemmeno la maggioranza prevista dal codice di parlamentare e anche dallo statuto del gruppo per poter rinviare al voto online. Lì l'unica maggioranza che c'era quella sera erano la maggioranza di 72 parlamentari del Movimento 5 Stelle. No, ma ho capito. Dal lavoro. Però non ti pare un po' paradossale? Non sappiamo nemmeno chi sono, perché non c'era nemmeno un verbale che ci dicesse chi sono gli assenteisti sul lavoro. Che Marino, di andare a lavorare, chissà che cosa stavano facendo. Scusami, però non ti pare paradossale che ti sei ridotto, cioè ti hanno ridotto, forse ti sei ridotto, Parenzo, a due avvocati, i tribunali civili. No, sono due attivisti del Movimento 5 Stelle. Vabbè, ho capito, sempre due avvocati sono. Ma sì, ma scusami, ma a questo punto, no, Marino, siamo in uno stato di diritto, l'Italia non siamo mica in Corea del Nord. Ma sì, ma d'accordo. Io sono d'accordo con te e sono pronto. Un tribunale civile che mi darà ragione. Intanto continuerò anche fuori dal gruppo parlamentare, che intanto sì, mi ci dovranno portare via fisicamente i commessi, cioè? Perché io ci ritorno lo stesso, cioè? Vediamo che succede. Cioè, come fisicamente? Poi, spiegami. Se i commessi mi porteranno al gruppo misto, vorrà dire che formerò un altro gruppo parlamentare che rappresenterà la minoranza del Movimento 5 Stelle. Cioè, scusa un attimo, fisicamente tu continuerai a stare nello stesso ufficio dove eri prima? Certo, e io tanto certo, ci vado, vediamo che succede. Ho capito, vediamo che succede. No, ma noi siamo tutti contenti. Ma io figura, noi ti appoggiamo alla grandissima, per me è una vergogna sia il regolamento precedente che quello diciamo che... Ma io sono pronto anche a non pagarti l'avvocato. È tutta una farsa, Cruciani. Perché? È stato indetto, mi hanno chiamato poco fa degli attivisti arrabbiatissimi, sì, degli iscritti che mi dicono noi non abbiamo potuto votare perché ci è arrivata la email per poter votare solamente pochi minuti prima che si chiudesse cioè mi stai dicendo, scusami, il post sul sito del Movimento 5 Stelle è uscito alle ore 11:00, la votazione iniziava alle 11:00 con termine dopo 6 ore alle ore 17, è una vergogna. Cioè, ma hanno organizzato tutto per farti cacciare, dici, tutto. Ma è ovvio, e poi ripeto che non c'era la maggioranza come prevede il codice di comportamento dei parlamentari che proponesse al SIT di ratificarlo, solo vabbè, 62, non c'è un verbale perché è una vergogna che non c'è un verbale, sono fatto scrivere di pugno quella sera dalla senatrice Bulgarelli tutti i numeri, 3 astenuti, 25 contrari alla mia espulsione, 62 favorevoli vabbè, alla mia espulsione. Quindi, ma adesso che fai? Perché non vai al gruppo? Ma vai al gruppo misto adesso? Sono 163 parlamentari. Sì, ma questo l'abbiamo già detto una volta. 82 la maggioranza, mancano ancora 20 voti, l'unica maggioranza c'era di 72 assenteisti dal lavoro. Scusami un attimo, Marino, ma adesso che fai? Parenzo, è curioso. Vai al gruppo misto? Dire, ma adesso che ti frega? Ripeto, mi ci porteranno i commessi fisicamente, allora andrò nel gruppo misto, formerò un gruppo che rappresenti la minoranza del Movimento 5 Stelle, che poi diventerà sicuramente la maggioranza. Ma come lo mettiamo con lo stipendio, come dice Parenzo? Adesso se esci... Io continuo a essere del Movimento 5 Stelle e farò esattamente quello che ho fatto fino adesso, fare tutto quello che fanno i miei colleghi. Quello che faranno dello stipendio i miei colleghi farò anche io. Cioè, ho capito, però se esci dal 5 Stelle ti potresti tenere tutto lo stipendio, per esempio. Tutto. Ma chi se ne frega, io ho il Movimento 5 Stelle nel sangue, per cacciarmi dal Movimento 5 Stelle mi devono fare una trasfusione di sangue. Cioè, in che senso la trasfusione di sangue, scusami? Ah. È impossibile, se uno ce l'ha nel sangue come fa? Cruciani, se a te piacciono le donne, io ti dico no, a te ti piacciono gli uomini, tu che cambi opinione? Beh, no. E allora, voglio allora scrivere, loro si possono inventare tutte le scattorfie farze che vogliono, io sempre del Movimento 5 Stelle rimango. Ho capito, ma se ti hanno cacciato c'è poco da fare. Mi hanno cacciato illegittimamente, poi lo vedremo con il Tribunale Civile. Ma tu vuoi arrivare fino a Strasburgo? Dal gruppo parlamentare, ma non, continuo a essere iscritto al Movimento 5 Stelle, sono un senatore del Movimento 5 Stelle, eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle. Ho capito. Continuare a usare il logo. Scusami, Marino, la cosa che volevo chiederti, sei disposto ad arrivare fino al Tribunale dell'Aia per i diritti dell'uomo, il Tribunale di Strasburgo, quello che è? Ma io, guarda, siamo in uno stato di diritto, tutto ciò che consente lo stato di diritto sicuramente lo farò. Dunque, arrivare anche al Tribunale dei diritti dell'uomo. Ma guardi, non so se lo prevede lo stato di diritto, se lo prevede i miei avvocati lo stanno studiando, farò qualunque cosa possa difendere l'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, quindi anche la televisione. Io non sono mai stato in un talk show televisivo, sono rilasciato interviste giornalistiche. Però dicono che non ti sei messo d'accordo, con i comunicatori, con i responsabili della comunicazione che ti dicevano di non andare, invece tu andavi lo stesso. I comunicatori, se sono iscritti al Movimento 5 Stelle, ne dubito, non so nemmeno se sono iscritti, valgono un 50 millesimo. Chi comanda sono gli iscritti. Beh, ok, però ci sono le regole. Sondaggio per chiedere agli iscritti se i parlamentari del Movimento 5 Stelle potevano rilasciare a titolo personale delle interviste giornalistico-televisive. Comunque, una sai che cosa scrivono sul su qualche blog del 5 Stelle, Parenzo? Ma vi siete accorti quanto Mastrangeli assomiglia ad Apicella? Non sarà mica un suo figlio legittimo. Effettivamente c'è una certa una certa somiglianza tra Mastrangeli ma no, e Apicella. Ma c'ha più capelli. Chi c'ha più capelli? Non credo. Mastrangeli. Comunque non credo che sia questo un problema dell'Italia. Ma no, ma stiamo scherzando su scherzi anche però, lei, Mastrangeli. Tu già sei stato fortunato perché hai pescato un jolly pazzesco e sei finito per caso in Parlamento. Con 64 voti delle, delle no, io sono stato il candidato Ciciano più votato alle parlamentari online del Movimento 5 Stelle. Sempre 64 voti hai preso. 4 anni di vita. Ascolta, Cruciani, è scritto sul mio curriculum. Ho capito, online, ma 64 voti hai preso. Vallo a vedere sul mio... se lo vado a vedere sul mio no ma dammi del tu ma sito del scusami Marino quanti voti hai preso sì. Quanti voti hai preso alle parlamentari? Allora io ho scritto ascolta io ho scritto nel mio curriculum online di candidato attivista influencer del Movimento 5 Stelle. Vabbè, da anni tutti i giorni da quando mi sveglio a quando vado a dormire sono stati voti veri di attivisti. Quanti? Puoi chiedere a Casaleggio se c'è stato un altro Mastrangeli che mi ha votato. Non ci sono altri Mastrangeli. Vabbè, perché non mi sono ma fatto quanti votare voti alla fine? Da mio padre e da mio fratello. Quanti voti? Ho preso 64 voti di veri attivisti, visto certo. Che la circoscrizione mia è molto piccola. Va bene, traffico, torniamo subito 800 24 00 24 per la conclusione con Marino Mastrangeli, il primo deputato senatore espulso dal Movimento con una votazione online contestata, come avete sentito. La Zanzara. Vedi, ecco Marino, la Zanzara. Fontane, Marino Mastrangeli, Ciociaro. Eccoci, comandi. Ciociaro, deputato, senatore, anzi del Movimento 5 Stelle, dice io posso utilizzare il logo. Utilizzerò pure le stanze, Parenzo. Io farei un monumento a sto Mastrangeli, io lo adotterei, diciamo. Ma lo per me bisognerebbe, come dire, smettere di fare le ricerche per il busto di almirante che hanno ritrovato nello yacht in Tunisia di Bossi. Ah, di Riccardino Bossi, sì, del signor Riccardino Bossi, Bossi, quello sì. Senior. E bisognerebbe fare un nuovo busto, il busto di Mastrangeli, dopodiché basta, non intignarti, hai avuto la fortuna di essere eletto, sei là, tienti la diare e mandali tutti a fanculo. Come esatto. Il cretino, non ma ha ragione cretino. Stavolta ma Parenzo, io li devi mandare tutti a fanculo della mia vita. Ho capito, non ho fatto ma... mica per soldi, non sono mica una prostituta. Marino, scusami un attimo, tu la cosa che devi fare è mandarli a fare in culo come loro fanno spesso e dire io non mi avete voluto, benissimo, adesso io faccio il senatore indipendente, mi prendo tutta la diaria, tutta l'indennità, lo stipendio pieno come fanno tutti, tanto scusa che gli dai a fare i soldi al partito al 5 Stelle? Assolutissimamente no, assolutissimamente no, io ascolti Cruciani, è stata boicottata quella, è stata una ma perché ce l'hanno con la D'Urso? Perché ce l'hanno con la D'Urso? Lì c'era solamente un post che diceva falsità sul mio conto, se avessero pubblicato anche la mia versione dei fatti, che è la versione vera dei fatti. Sì, ma ho capito. Che la maggioranza avrebbe votato. Chi è che me? Ha detto quelle frasi sulla D'Urso, la D'Urso puttana quella volta? Chi l'ha dette? Un membro, anzi due membri, uno ha detto è una nemica, l'altro ha detto P puntini puntini. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto la puttana? Ed è un altro membro del gruppo di comunicazione del Movimento 5 Stelle. Chi l'ha detto Pippi? Oggi hanno deciso l'espulsione, dobbiamo dire tutto, Mastrangeli, tutto apertamente, no, trasparenza. Aspetto la querela, poi dopo lo diciamo davanti al giudice, poi vediamo se io ho le prove di quello che dico. C'è uno del gruppo della comunicazione l'ha detto comunque. Sì, uno ha detto che è una nemica, un altro ha detto che è un altro membro ha detto che è una P puntini puntiniana. Vabbè, ma è la registrazione? Ma che registrazione? No, non c'è nessuno. Non lo so, intanto io aspetto di dimostrarlo al giudice. Vabbè. Appunto, lo puoi dimostrare solo con la registrazione audio. Non lo so io come lo dimostro. Ma Grillo ha fatto di tutto per farti cacciare alla fine, eh? Ma non credo, perché io ho incontrato Beppe giorno fa alla conferenza stampa a posto Quirinari e non mi ha detto nulla. Ho incontrato Beppe due o tre settimane fa alla famosa scampagnata vicino Fiumicino, che è venuto addirittura a chiacchierare e a scherzare con noi al tavolo dove stavamo mangiando e non mi ha detto nulla. Ma manco l'ha riconosciuto. Quindi, secondo me è stato Vito Crimi che ha soldato 61 scagnozzi per farmi fuori politicamente, ma ride bene chi ride ultimo. Ma Crimi va cacciato secondo te? Certo, è tutto lui, ma non hai visto oggi che ha raccontato una balla? Addirittura ho visto sulle agenzie, sì, che io non avrei, per andare in televisione oggi non avrei nemmeno partecipato al voto di fiducia, quando è assolutamente falso. Anche Alessandra Mussolini, che era segretaria d'aula, sì, ha confermato. Ma che personaggio che è sto Crimi? Sono andato a votare e, sì, ho votato no alla fiducia. Che personaggio è questo Crimi? Mastrangeli, che personaggio è? È, allora, è uno che metteva i timbri nel tribunale di Brescia, che si è montato la testa e adesso crede di voler di comandare nel Movimento 5 Stelle. Non si è messo nella testa che comandano i 50.000 iscritti, perché il Movimento 5 Stelle, beh, il Movimento, ho capito, però la maggior parte di questi iscritti t'hanno cacciato oggi, quelli che hanno partecipato, certo, al voto. Se gli iscritti, allora Luigi Einaudi diceva conoscere per deliberare, se ai nostri iscritti mi vengono raccontate balle sul mio, sì, conto, come quelle che racconta Vito Crimi sul mio conto, è normale che quelli non, possono votare contro, ma, di me, ma ci sono alcuni che avessero conosciuto, sì, avrebbero, sì, deliberato correttamente. Ho capito. Scusami un attimo, innanzitutto due cose: ma è vero o no che, ma quanti sono i grillini disposti a venire con te in un altro, in una minoranza, diciamo? Ma guarda, questo non importa, io so che, no, ma quanti sono? Ci sono dei numeri o no? Io so che il 12% degli iscritti stanno con me, mi bastano e mi avanzano. D'accordo, ma ci sono altri senatori o deputati che possono venire con te a fare sta minoranza? Allora, Cruciani, mettitelo nella testa, nel Movimento 5 Stelle ognuno vale uno, un senatore. Ho vale capito, un, ma ci sono senatori e deputati disposti a venire con te, sì o no, da quello che tu sai? A me interessano gli iscritti del, vabbè, Movimento 5 Stelle, se poi vengono anche dei senatori che valgono un 50.000, ma ci sono o no? Ma non lo so, vedremo. Io, secondo me, sì, vedremo. Ah, e quanti sarebbero? Ma tanto, ma Cruciani, ma parliamoci chiaro, ma secondo te è possibile, sì, che per 5 anni questi si facciano mettere la mordacchia per 5 anni, no, non poter parlare? No, ma no, un parlamentare, ascolta Cruciani, un parlamentare non può non parlare, altrimenti che, beh, cavolo, ma, di parlamentare? Ma lo sapevi quali erano le regole, però? Lei sapevi quali erano le regole? Ma quale regola? La regola che il parlamentare non può parlare, c'è scritto evitare la partecipazione ai talk show televisivi, mai partecipato a un talk show televisivo in vita mia. Vabbè. Senti un attimo, ma è vero che la nomina di Crimi e della Lombardia è stata un po' pilotata, la nomina a capogruppo? Certo, è stata super pilotata, ma se tu pensi che è stato fatto il primo incontro... Ma pilotata da chi? Il primo incontro all'Hotel Universo, senza un ordine del giorno, è arrivato una mail dallo staff del Tesoro, ci vediamo lì. Il giorno prima è stato fatto un incontro informale dove io ho provato a dire, ma non è che si potrebbe parlare di elezione, sì, capogruppo, che poi la figura di portavoce è quella più importante in questo caso, come ho provato a dire capogr e sono stato assalito. E che cosa è successo? Il giorno dopo è arrivato Beppe Grillo e Casaleggio, dicono, ecco bene ragazzi, adesso votiamo l'elezione dei capigruppo di Camera e Senato. E allora? Senza preavviso, non ho capito. E chi si vuole candidare? Allora io, per rabbia, mi sono alzato e mi sono andato a candidare, sì, e insieme ad altri 4-5 colleghi. E Vito Crimi si è permesso pure di sgambettarmi alla prima che mi ha visto in vita sua. Cioè, come sgambettarti? Ad esempio, io ho detto, la vuoi sentire lo sgambetto? Lo sai che mi ha fatto? Allora io una farca di 120 secondi di campagna elettorale, due minuti, io sono riuscito appena a dire che sono un ex poliziotto, che avevo un nulla osta di ma quello me lo ricordo, che allora? Dava la possibilità di maneggiare allora? Materiale classificato, riservato e segreto, che era un attivista H24. Quando è arrivato il turno di Vito Crimi di parlare, aveva 120 secondi a disposizione e aperti a dire, numero uno, che il nulla osta di sicurezza lo può avere chiunque, basta fare la letterina, numero due, che anche vale, noi, ma che vuoi dire? H24, siamo tutti attivisti H24, anziché fare la sua campagna elettorale ha pensato a sgambettarmi gratuitamente. Vabbè, senti una cosa, si vede dal mattino, infatti. Vabbè, così è finita. Senti una cosa, ma chi l'ha pilotata, Grillo e Casaleggio, l'elezione della Lombardia di Crimi? Ma se loro venivano quel giorno e ci dicevano, guarda, ti dico anche un'altra cosa, io ho dei testimoni che appena finite le parlamentari a dicembre ho detto a molti testimoni iscritti al Movimento 5 Stelle, guarda, scommetto che il capogruppo al Senato sarà Vito Crimi e scommetto che il capogruppo alla Camera dei Deputati sarà Roberta Lombardi. Infatti subito dopo le votazioni sono andato da loro due, gli ho detto, ma perché non abbiamo organizzato un bel toto gruppi? Sarei diventato ricco. Io ho testimoni che avevo già a dicembre. Vabbè, Marino, ci sentiamo presto, devo chiudere, a presto, ti abbraccio, ciao, a presto. Allora, ciao. Ecco Marino. Vincenzo da Roma, Vincenzo. Vincenzo? Sì, buonasera Cruciani. Dica. Mi stavo chiedendo, dal modo con cui conduce la trasmissione, ma lei a fine trasmissione, sì, non è che va a mangiare con qualche funzionario dei servizi segreti? Io? Sì. Ma lei è impazzito, sì, sta parlando sul serio? Sì, è il suo collaboratore. Non è che per caso state creando o state cercando di capire un sondaggio su chi potete fottere a livello nazionale? Cioè, in che senso? Scusi, non ho capito. Un sondaggio per capire. Noi siamo la zona grigia, è vero? Cioè, non ho capito. Esatto, lei pensa che noi siamo manovrati? Noi siamo la zona grigia, è vero? Lei pensa che noi siamo manovrati dai servizi? No, sì, che lei sia lì a lavori proprio per i servizi. Ho questo sospetto, lo nutro. Ma è vero? Perché da come ha gestito adesso l'intervento con Marino, sì, 5 Stelle, che sì, dovrebbe fare altro che andare a prendere i soldi a fine mese e portarglieli alla famiglia di quei due carabinieri che sono. Vabbè, allora, dunque, Cruciani e Parenzo al soldo dei servizi segreti, riprenderemo domani 18:30 la Zanzara, vive e lotta insieme a voi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.